No, Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere. Vai al solo, allora, forza. Ecco, vado solo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi... Lungo, lento, sei lento, non funziona, lento, dai, non funziona, su, non funziona, dai, programma del pomeriggio questo qui, allora, dai, una discussione del pomeriggio, non, va, non andrà mai in prime time, mai. Ciao Loris, hai rotto il cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Chiuderò lo studio e dovrò prepararmi per andare a trovare i miei splendidi nipoti. Che cosa, mio nipote? Viaggerò tranquillo, non andrò a trovarli una alla volta, come hanno detto, c'è... ma conti, ma si faccia bene i conti. Mi raccomando, non andate dai nonni, lasciate i nonni, perché se si ammalano, poi se si ammalano a Roma, rimortacci vostra tutti in giro, sti vecchi de merda, vaffanculo. Ma adesso gennaio, appena si può, MasterShow mi organizza una bella gang tosta. E sarete tutti invitati. Ma si accomodi. Ci siamo? Dimmi Milena, dimmi. Ecco, perché volevo confermare che non è una stronzata quella della vagina. Cioè del quiffing, dici tu. Ma signora, quanti anni ha sta signora adesso che interviene su questo tema? Ne ho tanti, sono una nonna. Tutti lo fanno. Riassumendo tutto in poche parole, l'Italia è stata venduta Big Pharma ed è diventata un enorme laboratorio in cui vengono condotti esperimenti sulla popolazione. Sì, bisognerebbe mettergli fuori un cartello medico non vaccinato, medico vaccinato, capito? Questo sì, bisognerebbe farlo, certo. Bellissima la proposta di Parenzo di mettere il cartello medico vaccinato, medico non vaccinato. Ricorda un po' la stella gialla con scritto Juden dello zio Adolf. Bravo Parenzo. Fermi tutti, usiamo il linguaggio corretto. Natania mi scrive, sto sentendo la zanzara. Gates. E ragazzi miei, il collegamento da Roma, David Parenzo, buonasera. Buonasera cari amici. In USA superano i 18 milioni di contagi. Fauci si vaccina con Moderna in diretta televisiva. La battaglia contro il Covid-19 è cominciata. David Parenzo, il Sole 24 Ore, Roma. Dopo il solito bollettino ridicolo parenziano, no, in collegamento da Padova, naturalmente, Alberto Gottardo. Maniaco sessuale. Reduce no, da 1000 chilometri in treno, ho fatto Padova-Bologna, Bologna-Roma, Roma-Milano, Milano-Verona, Verona-Padova. Non mi ha fermato un di nessuno. Ma cosa sei, un guidatore non di treni? Fermato un cazzo. Sei un controllore di treni, come secondo lavoro fai quello? 1000 chilometri in treno, in 4 giorni, non un'autocertificazione, non un controllo. Avrei potuto avere la peste bubbonica, non mi ha controllato nessuno. Non è questione di peste bubbonica, è questione che per fortuna, io dico, per fortuna, e nonostante i paletti eccetera eccetera, nessun ognuno paletto ormai, può purtroppo fare il cazzo nessun che vuole. Attento però, teoricamente, perché alle 22 della sera ti controlleranno quando te ne tornerai ma a casa, speriamo, dalle tue cene in 20 di Capodanno. Sì, ma c'è non la polizia nessuno per le strade e ti controlleranno. Vabbè, allora che fai? Sto andando in farmacia. Sì, farmacia alle 22, figurati. Da solo con la macchina. sto andando in farmacia. Bugie, certamente, bugie, ragazzi, forse non avete capito ancora qual è la cosa. Qual è il trucco? Avete voluto questo? Fottere, fottere il potere, bello, fottere il DPCM di continuo, fottere a girare, fottere e a girare il DPCM. Assolutamente, complimenti, complimenti, con prudenza, disobbedire, come ha detto l'altra volta la maglia, disobbedire con prudenza, ovviamente con le distanze, con le mascherine, disobbedire con prudenza, bel messaggio, cioè dire fottere il DPCM a più non posso, con prudenza, con moderazione. Polizia all'ascolto. La polizia, forse hai capito, gli amici poliziotti se ti fermano alle 24 all'una e uno dice sto andando in farmacia, non ti possono dire nulla, ma vediamo cosa, da dove vieni, cosa da casa, io spero tante multe, posso dirti, io spero che ti multino. Tu speri tante multe, sì. Tu no, me in generale, per chi fa il ganassa, per chi fa il ganassa in 5 in macchina, Parenzo contro gli italiani, io spero tante multe, non te le fanno. E comunque il dilemma è fottere il governo o fottere il CPC, ma secondo me non è il governo, grandi dilemmi, è il virus che vi fotte. Il CPC è un'altra cosa ancora con sta storia, il virus che ci è arrivato. Però, è il virus che divertitevi. Metti paura addosso. A parte che ieri hai detto una cosa incredibile, molti ascoltatori sono incazzati, giustamente sono incazzati. Non, tu forse ti sei dimenticato di quello che hai detto ieri, te lo sei perso, hai detto una roba incredibile. Quello che viene detto i medici che non si vaccinano devono avere una targhetta, medico non vaccinato. Certo, io voglio saperlo. Come... siccome facciamo pazzesco. Paragoni idioti. Ma i paragoni ci stanno tutti, vorresti la stella gialla, stella gialla sui medici che non si vaccinano. Non facciamo paragoni abominevoli. Lì persone venivano mandate nei campi di sterminio. Non diciamo paragoni abominevoli. Chiaro. Qui si sta dicendo per la salute pubblica, io voglio sapere che un funzionario pubblico, chi svolge un servizio pubblico, voglio sapere se è vaccinato oppure no prima di andarci. Ma tu sei pazzo. È a tutela della mia salute di cittadino, oltre che della sua. Tutto ma tu qua. Sei completamente pazzo. Non tu facciamo sei... paragoni immondi. Tu sei io completamente pazzo. Tu vuoi classificare sì, sì. I medici. Cioè, no, tutti. Io voglio sapere che chi va in un luogo, come per ma i bambini. I bambini che vanno a scuola hanno l'obbligo di portare... Non diciamo all'università, Davide, ma ragazzi era un regime così. Ma è iniziata così cosa? Qui si parla dicevano, di salute pubblica, non diciamo altri cazzate mestieri, potevano fare degli altri ma non mestieri, diciamo dicevano. Minchiate, mio nonno è stato sbattuto fuori dall'ordine degli avvocati e poi è stato perseguitato questo? Quindi non c'entra ma niente, non c'entra nulla, mio nonno nel 38 sì, si ma tu vuoi classificare, vuoi classificare i medici io in base al fatto che hanno fatto il vaccino o no? Io voglio sapere se un medico che svolge un servizio pubblico come i miei figli quando vanno a scuola, ma non dire buffonate, è una cazzata questa, dai, su, un medico ha il diritto di non farsi, no, fermati, il diritto quando di non farci il vaccino vanno anti-Covid. I miei figli stiamo parlando quando di due cose diverse. No. Non i vaccini i quelli figli, obbligatori. I miei stiamo figli parlando quando di un'altra vanno cosa, a scuola, dai, no, no. I miei figli quando vanno a scuola hanno l'obbligo di portare il libretto delle vaccinazioni. Allora circoncidiamo i medici. Ecco, la buona sintesi può essere circoncidere i medici. Cosa c'entra questo? Sì, no, perché per te è una cosa fondamentale, allora l'altro. Cos'è fondamentale? Fondamentale per la salute pubblica, no, per me. Dai, scusami tu, se un bambino tu, va a scuola e c'è un bambino immunodepresso, dai, non il, diciamo mio, cazzate, il bambino dai, non vaccinato, ma che c'entra il Covid? Ragazzi, non sapete che un cazzo. C'entra il Covid? C'entra il Covid perché il bambino. Parenzo. No, ve lo spiego. Fermi tutti, fermi te tutti. Giù. C'è tempo. Allora, l'ex ministro della Lega, il signor Centinaio, dice che a Natale saranno in 7. Vai, 7. Non manco sto numero, vai. Che io non rinuncio a vedere la mia famiglia almeno il giorno di Natale. Cioè, con quante persone farà Natale lei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persone. Io glielo dico, Centinaio, allora. Non si può fare. Comunque, ovviamente, lei è un parlamentare, si assume, come dire... No, ma indipendentemente si assume da le sue responsabilità civiche. Indipendentemente da Centinaio parlamentare. No, a casa però, lei sta lanciando un però lei sta lanciando un messaggio di violazione. Cioè, lei sta dicendo adesso, di fronte a tanti telespettatori, che... è giusto brava violare Bottone. Le regole perché penso facciamo. Che sia una boiata questa regola e quindi lei non la osserva perché dovrei signor Centinaio, brava la signor Bortone Centinaio. Che gliel'ha tirato fuori, se ne frega, bravo non brava, brava la Serena Bortone. Allora qui la questione è molto semplice, ripeto, dal mio punto di vista fottere quando è possibile, aggirare, fottere con prudenza come quelli che vanno nel fisco, disobbedire con prudenza come l'evasione del fisco mi sembra fondamentale. Beh, io a Capodanno sarò a Roma, per esempio. Un super Sgarbi. Sai, David? Beh, è meglio non dirlo, forse, perché dovresti avere un permesso di lavoro per andare. Beh, a Roma. Sì, Roma. Ce l'ho il permesso. Io sarò a Roma per motivi di lavoro. Per andare. E quali a sono i motivi? David il 31 ma no, io a Prati, no, io tutt'altro. Per parlare della Zanzara. Ma io, Parenzo, io non ti ricevo perché me ne sto a casa. Parenzo, ma io smentisco tutto. Ti denuncio alla polizia e smentisco tutto. Ma io smentisco tutto. Io chiamo la polizia e dico: qui c'è un signore che qua non ci dovrebbe. Uno storpio zoppo. Ottimo. Che da Padova è venuto qui e che io non voglio vedere nel raggio di 20 km. No, insomma, capito? È vero che sono zoppo, però non lo mi discriminare per la non mia lo disabilità. Voglio. Ma io non lo voglio, non lo voglio vedere. Una cosa carina avrà da preso parte la sifilide, eh? Avrà preso la sifilide, no, fa no, delle porcherie sorella, con le vagine degli altri e io non voglio. Non ho sorelle, non ho sorelle. E io non voglio prendere, non voglio averlo a casa. Non voglio averlo a 20 km da casa. Posso dirvi una cosa? Ti querelo per quelle sono affari vostri, sono affari vostri. Allora, ragazzi, posso dire. È una notizia di reato se viene sì, a Roma, praticamente veramente? Sì, praticamente sì. Sarà giustificato da una carta. Che ci farà quale fare carta? Ci farà fare una carta per motivi di lavoro. Come fanno tutti? Come fanno tutti? Io non mi faccio fare nessuna carta da nessuno. Mi faccio mandare da Cruciani a casa di Parenzo per motivi radiofonici. Ma per quale motivo? Questo è bello, per motivi radiofonici. Ma il direttore di questa radio firmerà. Barisoni firma una carta come questa? Me lo faccio mandare da Cruciani direttamente. Dice: per motivi di Zanzara devi andare da Parenzo. Rompegli i coglioni a mezzanotte del 31. Ma cosa c'è che è nessun tutto chiuso? Nessun il carabiniere può dirmi ma no. io chiamo il carabiniere io per denunciare. Allora ragazzi, io posso dirvi una cosa, la cosa come sapete nel pomeriggio molti di voi sanno che il Napoli rigiocherà la partita con la Juventus, dunque follia. Nessun 0-3, nessun 0-3, follia totale. Ottimo, secondo me, però ottimo. Giustizia la giustizia. Bene, noi per il non Napoli siamo, e, non e siamo. La Juve saprà vincere. Benissimo, se lo saprà fare benissimo. In questa mi nuova fa, partita mi fate dire una cosa, mi fate dire una cosa, non me ne frega assolutamente nulla, perché al contrario di altri, in particolare a Napoli, quando c'è una sentenza che non mi, a me questa sentenza non mi piace, le dico la accetto e chi se ne frega. E ti credo, ottimo sì, la ricorso, chi se ne frega. Ma giusto. La cosa più ridicola, tu non sai un cazzo di queste cose. No, io parli. Ho letto la notizia. Allora, il presidente della regione Campania, De Luca, sostiene prima la salute e giustizia ripristinata. Cioè ci sono squadre che hanno giocato con meno 4, 5, 6, 7 giocatori facendo viaggi pieni di Covid. Il Napoli pensa non è partito. Il Milan anche. Il Napoli non è partito. Ma non è partito perché l'ASL ha detto che non poteva partire. No, diciamo, secondo alcuni giudici è andato in modo diverso. Ma lasciamo perdere. No, l'ASL ha detto che non poteva partire. Sì, certo, lasciamo perdere. Non è partito il Napoli. Nel partito del Napoli e adesso la partita si rigioca. Va bene, ma la cosa più ridicola è prima la salute. De Luca che dice prima la salute, prima la salute. Come se i giocatori del Napoli non partendo avessero garantito, avessero preservato la salute. Rigiocherà, giocherà, non c'è da rigiocare. C'è da giocare. Giù. Giù. Sgarbi scatenato. Giocherà, non rigiocherà. Ma va bene, chi ma se ne frega. Questo è un, non ma è un gioco di parole. Fotte? Chi guarda, se ne giocherà? Giuseppe. Giù tutti. Questi buffoni, questo ridicolo fico, un fico del cazzo, mi caccia dalla camera perché vuole che porti la mascherina per parlare, questo povero cretino e tutti mascherati come degli idioti e imbavagliati. Sapete che se questa cosa è vera andrebbero presi e schiacciati nella merda? E devono essere due, chi li controlla? Perché due non quattro? Ma che cazzo vuol dire? Scrivere in un decreto che non puoi ricevere più di due persone a casa. Ma vaffanculo, idiota! Coglione! Come avete fatto conferenze stampa, avete riunito nell'aula del Parlamento 500 persone fino a ieri e non posso avere due persone in casa mia. Ma andate a fare in culo, imbecilli. In Parlamento non c'è un solo parlamentare morto, non c'è un solo ministro morto, a parte che sarebbe stato augurabile, ma non c'è stato alcun ministro morto, eppure sono lì uno attaccato all'altro e noi siamo alla Camera in 500 quattro volte alla settimana, imbecilli. No, per Natale non puoi ricevere più di due persone. Ma andate a fare in culo, facce di merda. Cosa vuol dire? E come lo controlli? Come lo imponi? Con quell'altro casalino, un uomo che non ha fatto mai nulla in vita sua, che sta lì a fare il vigile urbano, il vigile, cioè adesso parla l'anno, ma che roba è, per fare il teatrino di questi due cretini, due criptochecche, neppure cripto, che stanno lì a fare gli spiritosi raccontando delle stronzate. Ma che cazzo dite? Ma dove cazzo siete? Posso sanificare un ristorante? Lo sanifico, perché non l'avete fatto fare? Governanti di merda! Come fate a governare se non capite un cazzo? Imbecilli! Però per me io lo vedo Cruciani ogni volta che sta là con la cuffia sopra i suoi capelli unti e quell'altro coglione grasso, poi non è così grasso, un po' un salsicciotto di Parenzo che sta lì col suo telefono in mano, la sua camicetta, i suoi golfini di merda, e poi c'è il grassone che sta là spalmato sul letto anche se ormai non ci sta più. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ieri mi sono laureato via Skype, una tristezza clamorosa, ho 23 anni, mi sono proprio rotti i coglioni di questi lockdown, del stare a casa, proprio... Basta, basta, capisco il rispetto per gli anziani, per chi ha fondato questo paese, ma noi giovani ci stiamo proprio rompendo i coglioni. Allora Cruciani, nel Regno Unito dove vivo, di persone sotto i 40 anni morte per barra con Covid sono 42. Avete rotto il cazzo. Basta questa storia, vaccinate i vecchi e riaprite tutto. Avete rotto i coglioni. Cioè, uno ebreo, l'altro ateo, l'altro ancora scappato di casa, e fate le vacanze di Natale. Mandatevene a fare in culo, va. Comunque all'inizio della trasmissione Gottardo ha detto che non l'ha controllato nessuno, ma siamo ancora formalmente tutti quanti in zona gialla, è normale, certo, che non ti controlli nessuno. Cazzo, col cazzo, no, scusa, come? Io sono partito come? Venerdì, mi sono mosso. Siamo in zona gialla. È zona gialla il Veneto, eh? No, è vero che non ti puoi spostare dalla regione, però. Non ti puoi spostare dalla regione. Sì, mi sono spostato dal Veneto. Sì, è vero, non ti puoi spostare dalla regione. Dal Lazio alla Lombardia. Sì, vero, non mi ha controllato nessuno. Ieri sera è venuto da me Giuseppe Cruciani a cena, o anche cucinato divinamente, assolutamente, tra le altre cose, assolutamente. Eravamo meno di 4 persone, per cui tutto in regola. Allora ragazzi, c'è una cosa però interessante, c'è una cosa molto interessante, sempre sulla vicenda del Napoli che poi chiudo, no? Cioè, se si fosse applicato ad essere più ladri della Juventus, cosa incredibile. Questo è Gottardo. Era impossibile, sono riusciti ad essere più disonesti della tradizione pazzo, juventina. Ma cosa hanno fatto? Una sentenza gli ha dato ragione. Ma che dice Gottardo che lo dice? Questo è dalla monetina di Alemão che non si vedeva una truffa del genere, è una truffa. Ma il collegio di truffa. Ma stai zitto, Davide, stai giù il microfono. È dalla molettina di Alemão. Allora posso dire una cosa molto semplice, che se si fosse applicato il metodo Napoli, il metodo stai dicendo ai giudici, però ma non mi interessa se si fosse adesso ai giudici, Davide, le politiche che riguardano la giustizia sportiva non mi interessano. Giù il microfono a Parenzo e fammi dire il cazzo che mi pare a me, ok? Chiaro o no? Se si fosse applicato il metodo Napoli dall'inizio del campionato, questa è la cosa fondamentale. E non so se il campionato poteva andare avanti. Cioè, non so quante partite si sarebbero giocate. Cioè, se si fosse applicato questo metodo, la ASL decide una cosa, noi non partiamo. E abbiamo i giocatori col Covid, noi non partiamo. Ciao core, sai quante partite sarebbero state rimandate alle calende greche? Milan, Inter, Genoa, eccetera. Per il Napoli questo è stato possibile perché c'è stato un combinato disposto di De Luca, ASL e adesso pure la federazione politica e sportiva. L'Inter al derby c'era fuori 5 giocatori. Ma che roba è? Follie assortite. Petrella si rifà vivo, ragazzi. Ormai parla ogni giorno. Questa volta di autogrill. Senti. Chi si muore di fame e ha bisogno di un piatto caldo sono quei tanti camionisti, poveretti, che vanno in questi autogrill. Io ci vado perché viaggio in continuazione e ci sta solo un panino di quel pane crudo con una fettina di mortadella. una fettina di formaggio che costa 590 euro, il resto costa 690 euro, dove io ci compro 8 panini, 2 ette di mortadella, 2 ette di prosciutto cotto. Tu puoi fare quel cazzo da pane, io ci vado, come io adesso, lei chiude 23, 24, 20, a me non me ne frega niente, io vado tranquillamente dove voglio. Che mi potete fare? La multa? Beh, e qual è il problema? Poi dice ancora, il Papa non dice niente e collabora con questi. Il Papa, quello di Roma, sì, allora? Non mio, ma vostro, allora? Sta facendo ricordare il Natale, non interviene, non aiuta, collabora con questi per distruggersi. Collabora con questi per distruggerci, caro Parenzo, caro Parenzo. Volevo fare una domanda a Parenzo molto semplice. Lui preferirebbe avere un figlio fascista, cioè tuo figlio, un figlio fascista oppure un figlio trans? Cioè, se dovessi scegliere, no? Un figlio transessuale, un figlio, ma mica perché è negativo avere un figlio transessuale, né un figlio fascista, nessuna delle due cose è negativa, secondo quindi me. Quindi ti rispondo subito. Ognuno fa quello che vuole. No, quindi ti rispondo subito transessuale, sicuramente. Cioè, ma tra un voglio figlio dire, fascista e uno transessuale, ma tu. No, per... ma non c'è, ma questo, ma perché no, non perché c'è tu dubbio, stai dici. Offendendo milioni di no, migliaia di transessuali, ti sto dicendo, paragonandoli ai fascisti. No, sapendo che per me il fascismo è il male. È una assoluto, domanda personale. Però io dire, non considero negativo niente, negativo niente. Ma di fronte a un figlio. Ma tu trasmetterai dei valori ai tuoi figli, a tua figlia, però. No, non è che considero negativo, no, qualche come se tua, se tua figlia diventasse un intollerante, un intollerante, non ti darebbe, non ti dispiacerebbe un altro discorso, fascismo, che c'è, ma non giocare, no, con uno... le parole, fascismo è intolleranza, ma non mi piacerebbe, però. Beh, che c'è, si può superare, basta, Davide, allora, si può superare, no, insegna a fare, no, yoga a, no, tuo figlio quando, no, si mette a testa in giù, no, poi gli passa il fascismo, no, chiaramente. Però scusami un attimo, tra tuo figlio fascista e tuo figlio transessuale, trans, dici, non c'è paragone, inaccettabile, no, inaccettabile, perché non si può paragonare il fascismo, che è una tragedia, meglio un trans, ma meglio, no, trans, il fascismo è una tragedia, ma non c'è dubbio, è imparagonabile in tutti i modi, non è, e una, dunque, roba, e dunque se dovessi essere, dovessi, ma, essere lì, ma, a scegliere transessuale, una cosa, perché, ma non è che devo scegliere, quella è una roba, è una, come dire, una tensione, tu che cazzo vuol dire, è, no, ma ho capito, ma cioè, ho capito, messo di fronte a queste due cose, un figlio fascista, un figlio trans, che scegli? Un figlio trans, mi sembra di capire, no? Ma non è che scelgo, ma è chiaro. Ma scusa, il fascismo è intolleranza, violenza. Benissimo, molto chiaro. Molto una chiaro, cosa è quella. No. Meglio è un banale, figlio trans che un figlio fascista. Ma non è meglio, Moreno non dalla è provincia meglio di Monza, niente delle, allora, due cose. Cosa vuol dire meglio? Hai detto, vuol dire Moreno meglio dalla provincia di Monza, dai. Buonasera, ragazzi. Dimmi, dimmi. No, per una sera sono d'accordo con Parenzo, anche se sinceramente il personaggio mi... mi dà fastidio, sono, non si preoccupi, la sua voce. Non si preoccupi, il fatto che lei sia ubriaco mi spaventa, ma non importa. No, non sono ubriaco, guarda. Beh, la voce direbbe il contrario, comunque mi lusinga, no, la grazie. La voce è da nicotina, caro. Ah, sono, vabbè, d'accordo con te questa sera. Sì, ma non lo dica però. Ma su che? Non ho capito. No, no, sono d'accordo che i medici, quelli pro-vax, devono vaccinarsi. Ah, non c'è dubbio, questo è il buon, ecco, senso, anche certo. Anche carabinieri, poliziotti, bravo, soprattutto, certo, i vigili urbani, certo, quelli, certo, quelli che ci vessano tutti i giorni. Quelli che si per vessano. Il resto non abbiamo nient'altro in comune. Non dico tutti i medici o tutti, solo quelli che fanno multe vanno vaccinati a forza. Ma perché, scusa, perché questo, perché però lascia in te, lascia perché in te, lo vedi, te l'ho detto io, non era così parenziano questo caso. Lui perché sostiene moriranno, che vanno vaccinati perché moriranno. Quando tu vorresti, nella tua idea, vorresti, sì, che morissero, non ho capito. No, non voglio che muoiano, dato che vogliono farci morire a noi con questo vaccino assassino io, di Bill Gates, senza sapere su che cosa voglio controllare, no, un'altra sono ma felice, sa perché se mi lasciate parlare, no, voglio dire solo, sono felice, sa perché? Perché io non sapendo, siccome siamo in diretta, non sapendo, sì, che cosa lei, non potendo immaginare la stronzata che lei avrebbe detto, ho detto che lei è un ubriaco. L'ho detto prima che lei iniziasse a parlare. Sì, e questo no, mi conforta parlare, perché io ho vuole le antenne alte, e quindi vi annuso, voi imbecilli che telefonate, io Io vi annuso ancora prima che iniziate a parlare. No, ma io vi annuso, vi conosco. Tu hai detto una cosa, però attenzione, tu hai detto il vaccino assassino di Bill Gates. Questo il vaccino assassino di Bill Gates, perché la Pfizer è all'80% stata ritirata dal signor Bill Gates, anzi proprio. Come lo chiamo simpaticamente io, Kill Gates. Ma come Kill Gates? No, Kill Gates. Io ragazzi, però voglio capire, ma sto Bill Gates perché dovrebbe distruggere l'umanità? Io questo perché non è un satanista. Ma non riesco a capire il motivo. Però questo torna, se quello è il motivo. Perché devono diminuire la popolazione mondiale a 500 milioni. Ma perché? Ma scusa, se diminuisce la popolazione mondiale, perché chi è che compra le cose? Secondo loro, noi siamo consumatori inutili. Noi siamo consumatori inutili. Attenzione, attenzione. Moreno è molto interessante. Fa parte di quella deep di quella di quel no, Moreno dalla provincia di Monza. Da Monza, anche se sono veneto, caro. So degli etui. Non lo dica, No, guardi, io la querelerei per quello che lei ha fermo detto. Fermo là. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallo 800 24 00 24, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Maestro, che differenza c'è tra andare con una rasata e con una non rasata? È meglio non rasata, col pelo ci rimane il segreto, qualcosa, invece è tutta rasata, che è taglietto, che fa schifo. Cosa cazzo devono sentire le mie orecchie? Gottardo che dice che la cannabis è tossica. La cannabis è un farmaco, una pianta officinale, una cosa che fa solo bene, un antinfiammatorio. Sei un povero inetto, palla di lardo, Gottardo. Oh, Gottardo, fa attenzione, che se sta roba dell'impotenza col coronavirus è vera e tu te lo prendi e non ti tira più l'uccello, è un casino. Cioè già appena ho utilizzato usare il pisello e tra 6 anni più o meno smette di tirarti perché sei un ciccione. Io e te di fare tanto il furbo, fatti vaccinare e smetti di dire cazzate. Cruciani, dai la tua tredicesima, questa è proprio una bella idea. Ancora. A tutti quelli che stanno dietro, a Poli, a Longoni, brutto ricco di merda. Fai un gesto concreto, sì. Infatti, come dite voi giornalisti, fai un gesto concreto. Tu che ce l'hai da buttare i soldi, te ci pulisci il culo. Bah, veramente. Dalle, tutti i tecnici che stanno. C'ha ragione quell'ascoltatore di non ieri. Non mi risulta che bastardo, ho da buttare guarda, dei soldi. Dalli pure a Parenzo che sta con le pezze al culo. Ma quando va con le pezze al culo? Sicuramente un altro tiro lo fa. Esatto. Ah ecco, scusa, dalli pure a Gottardo che mi sa che quando chiuderà la Zanzara diventerà un senza tetto, perché sta proprio così, quella è il suo destino. Ho rischiato per altri motivi. Andrà tutto bene e furono 35.000 vittime. Stiamo questo? Lontani oggi per abbracciarci domani. Alla Mariani, la mitica Mariani. Dobbiamo lavorare per evitare la seconda ondata, giugno. Siamo costretti a chiudere per salvare il Natale, ottobre. Dobbiamo fare un sacrificio d'amore e rinunciare al Natale per ripartire a gennaio. Ha ragione. Non ripartiremo. Non ripartiremo perché costui ci ha cambiato la vita, le abitudini ed anche il linguaggio. Lockdown, coprifuoco, militarizzazione, esercito, morte, restrizioni, virus, vaccino, delazione, distanziamento sociale. Beh, ma chi è questa? La signora Ornella Mariani, una novella Oriana Fallaci. Ornella Mariani. Dove scrive questa signora? Non scrive. Beh, uno non è che deve scrivere per forza. Cioè, per te uno scrive oppure è un coglione. No, ma è una cosa incredibile. Dipende, cioè. Dipende. Ma aspetta, nel senti qua, senti qua. Specie la signora. Perché Natale no, il Ramadan sì. Ma chi il Ramadan? Chi è il Ramadan si può fare? Chi l'ha detto? Non è il periodo del Ramadan questo. Ma non lo so. Ma no, ma devi dire che dice un'inesattezza, però non è il periodo del Ramadan. Non lo dici. Poi non è che Natale viene cancellato, che Natale esiste, no? Questo è quello che avete detto voi, ma avete raccontato voi. Che no, io non ho fatto notizio che non ci ha spiegato perché Natale no e Ramadan sì, né ci ha detto se le prescrizioni orarie dettate alle chiese sono estese anche alle moschee. E la colpa, certo, naturalmente è anche di Bergoglio. Ma tutti i luoghi di culto è estesa, cosa vuol dire? Cosa dice questa? Grazie al crollo dei valori cristiani prodotto dalla chiesa di Bergoglio, in questo Natale vestirò il lutto per la morte dell'Italia cristiana, per la morte della libertà di opinione, per la morte del diritto e per la morte della democrazia. Abbiamo appreso con sconforto, caro David, che la signora Ornella Mariani vestirà a lutto durante queste vacanze. Possiamo sopportare questa cosa, naturalmente, sì, no? Possiamo sopportarla tranquillamente. Sì, assolutamente. Io penso di sì. Cioè, vestirà come Cruciani, praticamente. Sempre di nero, black style, black style. Allora, Moreno dalla provincia di Monza era la persona collegata con noi prima, signor Moreno. Sì, sì. Che sostiene che Moreno, sostanzialmente, che però non è Mona, forse, o forse sì, non lo so. Parla di Kill Virus, no, di origini venete. Pronto? Dimmi Moreno, dimmi. Allora, questo qua è solo capace di offendere, sì, per farti scendere al suo livello. Io sono un 1,85, lui un 1,80, voglia di crescere. È pure brutto. E infatti quando vedo Parenzo mi viene in mente, sai quando prendi freddo alla pancia che dici devo tirare una scorreggia, è una scorreggia o è vestita? Così. Io l'ho cambiato nome, la scorreggia vestita si chiama Parenzo. Davide Parenzo, poi si vanta tanto che c'ha quattro figli, con quella voce da frocio. Sì, ma anche questo è sessualmente ambiguo. Il vaccino antivaccinale, c'è un culatone. Posso dire a Moreno che lui pensa di offendermi perché mi dice cara, no? Dandomi del frocio, pensa di offendermi. In realtà Moreno ha detto il Mona, perché in Veneto veniva chiamato, è stato costretto ad abbandonare il Veneto e espatriato in Lombardia, a Monza. Lui costretto ad andarsene perché tu dici che è da TSO. No, io dico che ovunque va fa delle figure di merda. Ed quindi è costretto ad andare. Esatto. Sì, adesso non ti preoccupate. Dopodiché tu sei sobrietà nella sua voce. Hai un problema con l'alcol, mi sembra di capire. No, non ho nessun problema con l'alcol, non ho le tonsille, ho la voce maschia. Lo so che per Parenzo che ha la voce da gay e quell'altro ciccione. Ah no, però fermi tutti, mi ha scritto Abdalla Kabakeggi. Fermi. Moreno, mi ha appena scritto Abdallah Kabakeggi. Da notare il link che c'è molto stretto tra il dentista musulmano con la moglie velata, con la moglie che porta il cosa che porta come, il, non è della camorra. Come si chiama? Quello che portano le suore. Ma torniamo a noi. Non è una suora lei. Quindi le suore possono portarlo. La moglie, la moglie di Abdallah Kabakeggi. Ma non mi interessa. Ma non è un mio problema. Se lei lo vuole portare, lo porta di sua sponte perché le fa piacere. Se lei vuole portarlo, se la obbliga il marito, che ti querela e ti porterà via tutto. Lo so perché conosco questa famiglia. Abdallah Kabakeggi, rifatti lo studio dentistico. Cosa ti obbliga a fare? Niente, nulla. Non girare il tema. Abdallah Kabakeggi mi scrive, informa quella signora che ha telefonato che abbiamo fatto il Ramadan a casa. Quindi la voce, quella voce di quella mezza squinternata. Che sono tutti squinternati per lui. Lui ha ragione. Come tutti i comunisti sono così. Non c'è niente da fare. Allora, signor Moreno, dalla provincia caro Moreno, di Monza. Lei conferma, esatto. Il Mona di Monza, dimmi pure il Mona di Monza. Lei tanto conferma a me, la mia tesi. Cioè, Sì, ma vai tranquillo, non mi offendo mica io. Io lo so di non io essere dico umore. Che lei conferma la mia tesi. Che chi sì, chiama ma vai qua tranquillo, è un disturbato. Pantegana, sta tranquillo, Pantegana. Lei mi conferma con grande gioia e ma una punta di rammarico. Ma querelami. Oh, ah, no, scusa, questo, querela, che cosa? Che c'entra la querela? Ma querelami perché ti ho detto, ti ho offeso. Non lo chiami no, non mi hai offeso. Non lo chiami Pantegana, perché è più bello il webcam stasera. Io vedere lui, vedere un ratto di fogna, è la stessa cosa. Beh, assomiglia a un ratto, guardatelo bene. Guardate, assomiglia a un ratto. Non è peloso, per esempio non è peloso. Sì, ma la faccia da ratto. Ma si può fare un pezzo di 6 minuti di trasmissione con uno che dice ste stronzate? Il lombrosiano che analizza Parenzo. Ciao, Moreno, ciao. Che razza di trasmissione? Chiara da Roma, avanti tutta. Chiara da Roma, vai. Buonasera sì. a tutti. Dimmi. Allora, ma io ho un problema. Sì. Semplicemente. Dimmelo. Il problema. Chiami la zanzara. Esatto. Arriviamo. Il problema di Chiara da Roma è che ascolta la zanzara. Dai, tranquillo. Tranquilli, fatela parlare. Il dimmi, problema è semplice. Che secondo me mio marito non mi dà il minimo sindacale a beh, livello sessuale. Molto interessante. Molto interessante. Quindi, allora, stai dicendo sostanzialmente che tu sei sposata. Sì, esatto. Il tuo nome esatto. non è quello, naturalmente. Immagino sì, che non esatto, sia il nome sì. originale. Originario. Esatto. Il marito, scusi, sa che lei sta chiamando qui perché sì, magari sì, può... è qui con me perché esatto, io non è che io l'ho nascosta questa cosa. Vedi, questo è un altro aspetto importante. Da tanti anni. Per cui ne insieme abbiamo parlato tante volte. Voi ascoltate la zanzara e già questo per me dovrebbe essere reato. Già questo io lo dico tranquillamente. Insieme, anziché affrontare i vostri problemi di coppia in modo normale, andando a una lista, avete deciso di telefonare qui e mettere in piazza il vostro problema. No, questo allora, è il fatto. Guardi. Dottor Parenzo, sì. Ha molta stima di te. La signora qui... Chiara ha molta stima. No, di ma te. Io pongo un problema no, proprio sociologico no, vostro. Io le spiego, io questo problema l'ho affrontato sì. tante volte, ne abbiamo sì. parlato tante ma volte. Cosa pretendi a tuo marito? Cioè, cosa pretendi delle cose in più? Il minimo sindacale. Cioè, no, il minimo sindacale. Quante volte alla settimana? No, ma non è una questione di numeri, secondo me. Io vabbè, ce la mettiamo così per me tutti i giorni, innanzitutto. Poi, bene. Per me, il minimo sindacale... Da quanto siete sposati? Fammi sentire, fatela parlare. Bisogna capire da quanto sono sposati. Dieci anni, abbiamo due bambini. Cioè, che cos'è allora, che pretendi che lui non ti dà? Io pretendo tre rapporti normali, sì, vorrei no. rapporti orali e sì. rapporti anali. Sì. Il minimo sindacale. Il minimo sindacale. Io sì. mi sono accorta che da quando lui... ti segue, sta diventando un po' più elastico di mente, ma soprattutto si rende conto che io sono normale, cioè non voglio dire, non chiedo la luna. Cioè, per allora cui mi stai dicendo fondamentalmente che a lui non piacciono i pompini, non piace il sesso anale? Guarda, dopo te lo passo così glielo chiedi, perché secondo no, me no, io voglio non capire so una cosa. Che dirti. Cioè, non, a lui non piace, voi state insieme da 10 anni, non praticate sesso anale. Solo quando glielo chiedo espressamente o cioè, tu o vorrei, tu vorresti che alla fine dei giochi tu vorresti che fosse molto più porco, che questo esatto, mi sembra la sostanza. Molto più porco, esatto. Infatti io gli ho comprato anche il libro tuo, ho scritto chiaramente che me ne deve una a sua scelta. Allora, c'è una delle cose che sono là dentro, cioè esatto, a sua scelta, a sua discrezione, sì, sì, io, sì. A me va bene tutto e ho detto tutte le sere te lo leggo. Poi alla fine del libro tu sì. il capitolo che vuoi approfondì, io sarò ben lieta di aiutarti. Beh, se si trattasse di scammismo? Ma quello no, non lo chiede quello, figurati. Quello non lo chiede, però potresti chiederlo. Tu sei aperta a questa possibilità? Tu sei aperta a questa cosa? Ma non lo so, ripeto, questo intanto no. punterei però, al minimo però, sindacale. Punta poi minimo sindacale. La tredicesima, qualche sculacciata. Se il sesso anale può essere colpa di suo marito, che non è abbastanza duro per praticarlo anche nel lato B, che ci vuole una certa durezza. Magari non è quello. Senti l'altro lì. Simile a quello del corindone, per capirci. Ma non è l'altro della durezza? Ma sentilo. Il rapporto orale sarà colpa sua, ma vuol dire mia. Che lei non è capace. Cioè io spartirei un po' le responsabilità. No, faccio fatica a trattenermi. No, è proprio, cioè, proprio un discorso di base. Io mi devo trattenere perché al contrario sono come una pantera. Poi se no lui, se non mi trattengo, poi lui, diciamo così, non... non ma regge il confronto. Cioè, non ho capito, non ho capito bene la cosa. Cioè, lui, tu vorresti spompinarlo, vorresti. Sì, vorresti... sì, e certo, lui no, me lui devo no. trattenere. Perché lui no, mi devo trattenere perché sennò poi mi dura troppo poco dopo, capito? Ah. E qua è un casino, è tutto un bilancio. Però io faccio oggettivamente, fatica. Ha ragione un po' David. Ha ragione un po' David da questo punto di vista. Mi sembra che qui ci sono diversi problemi messi insieme. Uno riguarda, come dire, una sorta di. No, di problemi di eiaculazione precoce da un certo punto di vista, e questo è un problema importante, grave. Secondo, c'è un problema di caratteriale, cioè secondo me tuo marito non è un porco, non è un porco, mi porta troppo rispetto e quello è il problema. Ma no, non bisogna rispettare, come dice Parenzo, bisogna schiaffeggiare, bisogna schiaffeggiare in senso ovviamente col consenso, bisogna trattare la donna come una Davide, io voglio essere chiara che tu, quando dillo, lui... dillo a tuo marito che è là accanto. Io voglio che mi tratti che da lui, no, dillo che scusami Chiara, bene, Chiara. Cioè, voglio essere chiara su questo, sì, sì, quando d'accordo. Lui lo fa bene, il problema è che lo fa una volta ogni tanto dopo tanti inviti, tante cose. Allora diglielo un po' chiaramente a voce alta, devi trattarmi come una troia, dimmelo, cioè sì, come... mi devi trattare come una troia, ecco, certo. Fermi tutti, bella, bella fermi famiglia. Tutti fermi. La Zanzara. Piuttosto che pisciare i lavandini, che ora non va più, basta, già fatto, ma quando andate a cena a casa di vostri amici, vedete quei bagni dove dicono guarda, quelli sono gli asciugamani per gli ospiti, ce ne sono di 18 tipi, tutti puliti, belli, piegati, non vi viene voglia quando invece pisciate o cagate di asciugarvi col loro accappatoio o col loro asciugamano per il viso? Bellissimo, cioè io mi mangio a casa di Palenza, deve essere tutto perfettino, 14 asciugamani, tu vai lì, caghi e poi ti pulisci il culo col suo accappatoio, bellissimo, bellissimo. È tutto pronto, serranda abbassata, luce in penombra, binocolo in mano, poltrona, e appena vedo un cenone dalla finestra con più di 6-7 persone, siamo pronti per la delazione condominiale. Colpirne 100 per educarne 4. Questo è un Parenzo un po' più, diciamo, volgare, diciamo, meno acculturato, un po' più con l'accento romano. Anche tu faresti delazione. Cioè, se tu avessi contezza, se sapessi di una festa nel tuo due piani palazzo, sopra, nel palazzo, chiameresti la polizia. No, pensate, ma che la polizia non pensate, lo so. Se la chiameresti i carabinieri, no, la polizia, i vigili urbani, no, quelli che so. Lo chiameresti. Ma me l'hai detto prima della trasmissione. Me l'hai detto prima della trasmissione. Finiamo come l'altra volta. No, assolutamente no. Me l'hai detto prima della trasmissione. Quello che farei è intanto andare a mettermi la mascherina, andare su e dire ragazzi fate meno casino che andiamo a dormire. Ma quello che c'entra è una questione di sicurezza. Quindi che ne so io. Comunque il cognome di Bill Gates vuol dire gabbie. Sarà un caso? Io non credo. No. È divertente questo. Ma poi Giuseppe, io dico una cosa, frate, come il suo fatto, dico. A pensare male si fa peccato, ma molto spesso si indovina. Sì. Dunque? Il vaccino è partito in Gran Bretagna una settimana fa, e ora c'è il nuovo ceppo. E dov'è questo nuovo ceppo? In Gran Bretagna. È un genio questo. Dunque sono io complottista, Giuseppe. Sì, io sono io complottista. Sì. E se uno poi pensa che sia stato il vaccino ad attivare questo nuovo ceppo, è complottista, vero? Se siete una manata di sei minchia, Parenzo, e tutti venduti corrotti. Un ceppo deriva dal vaccino. Un vaccino attivo un ceppo. Chissà la meteoria. Il sillogismo del grillino. Posso dire, c'è un grande abbandono scolastico in Sicilia e questo è un cretino ignorante. Anch'io ho fatto un sillogismo alla grillino palermitano. Allora fermi tutti. Tra le vostre cosce e natiche voglio perdermi, puttane. Del solo vero Dio, sacerdotesse vere, bellezze mature o no, novizie o professe, o nelle vostre fessure, nelle pieghe vivere. I vostri piedi splendidi sempre vanno all'amante, con l'amante ritornano, riposano soltanto a letto nell'amore, poi gentilmente sfiorano i piedi dell'amante rannicchiato, stanco e ansante. Serrati, profumati, baciati, leccati dalla pianta alle dita, succhiate una ad una fino alle caviglie, fino ai laghi delle lente vene, piedi più belli di quelli di eroi e apostoli. Quanto mi piace la vostra bocca e i suoi giochi graziosi di lingua e di labbra e di denti che mordicchiano la lingua e talvolta anche meglio, quasi altrettanto gentile che metterlo dentro. Senti, quasi altrettanto gentile che metterlo dentro. Ma cos'è? E non... i vostri seni, duplice monte d'orgoglio e lussuria, tra i quali il mio orgoglio virile a volte si solleva per gonfiarsi a suo agio e strofinarci la capoccia, come cinghiale nelle valli del Parnaso e del Pindo. E le vostre braccia, adoro anche le braccia così belle bianche, tenere, dure, molli, nervose quando serve, belle e bianche come i vostri culi, altrettanto eccitanti, calde durante l'amore e poi fresche come tombe. Le mani in fondo a quelle braccia che io possa mangiarle, la carezza e la pigrizia le hanno benedette, rianimatrici del glande rattrappito e schivo. Senti, la carezza e la pigrizia le hanno benedette, rianimatrici del glande rattrappito e schivo, masturbatrici dalle infinite cure. Ma tutto questo è niente, puttane, al confronto dei vostri culi e delle fiche, la cui vista, il gusto e l'odore intatto fanno dei vostri devoti degli eletti, tabernacoli e santi dell'impudicizia. Perciò, sorelle, tra le vostre cosce, tra le vostre natiche voglio perdermi tutto, sole compagne, vere, bellezze mature o no, novizie o professe, e nelle vostre fessure, nelle vostre pieghe, vivere. Caro David, qui è Paul Verlaine. Capito? Paul Verlaine. Grande. Paul Verlaine perché che parla di piedi, scuola? Di piedi. Perché, Paul Verlaine. Perché ti rompono le palle con Pascoli e non ti insegnano queste cose qua? Perché la pargoletta a mano invece di queste masturbatrici? Cazzo, il Nobel per la letteratura dovrebbero dare a questo qua. Dai. Ha riassunto perfettamente il mio fine settimana. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'oro. Meriggiare un cazzo. Meriggiare, ma che parola bella è meriggiare. Ma scusa, ma la cosa fondamentale è questa: e i vostri seni, duplice monte d'orgoglio e lussuria, tra i quali il mio orgoglio virile a volte si solleva per gonfiarsi a suo agio e strofinarci la capoccia come cinghiale nelle valli del Parnaso e del Pindo. Dai, su. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi. Senti che li senti, ma scusa, ma vuoi paragonare? Di merli, frusci di serpi. Ma chi se ne frega? Nelle crepe dei suolo sulla vecchia. Ma sarà meglio la figa? Le file di rossa formica o no? Ma sarà meglio serrati, profumati, baciati, leccati dalla pianta le dita, succhiate una ad una fino alle caviglie, fino ai laghi delle lente vene. Piedi più belli di quelli di eroi e apostoli. Ragazzi, i vostri piedi splendidi sempre vanno all'amante, con l'amante ritorno, riposano soltanto a letto nell'amore, poi gentilmente sfiorano i piedi dell'amante rannicchiato, stanco e alzato. Meraviglia assoluta. Francesco, provincia di Sassari, dai. Totale. Paul Verlaine, ragazzi, Paul Verlaine. Francesco, vi un po' di cultura ci vuole, no? Dai, certo, dai. Solo quella. Dai, Francesco, dimmi. Pronto? Dimmi, Francesco, dimmi. Senti, questa, ciao, sono Francesco. Allora, deve rovinare tutto questo qua, dai. Dimmi. Vicino a Sassari, in realtà non siamo proprio a Sassari, stiamo facendo una festa privata. Abbiamo decisamente superato il numero massimo consigliato dal governo. Sì, giusto. Bravo, avanti, allora, siamo tutti senza mascherina, al chiuso. Questo non va bene, però, Francesco. Bravi, divertitevi. Quanti siete? Scusa, senti, quanti siete? Io voglio il tuo numero e non voglio pagarti il servizio sanitario. Saremo un attimo. No, ma devi stare però se io ti ammali, non me ne frega un cazzo. Neanche se ti ammali, Francesco, adesso, però, io basta, non voglio pagare il tuo sistema sanitario. Francesco, però basta fake, però, cioè, perché uno già fammi fare un applauso da quelli che sono con te, se no non ci credo. Siamo qui. Ti giuro, ma digli che gridi no. Dai. E qualcosa si sente. Ma due, tre, ma una, per due favore. Saranno due sfigati. Ti giuro, siamo in 15. Vabbè, allora, tutti in 15 senza mascherina. Vabbè, ragazzi, cazzi vostri, al però, in 15 senza mascherina al chiuso. Non tanto. Ma non avete paura di attaccarvi vicendevolmente il Covid? Ma la verità, un po' ci speriamo al Covid, non ho tanta paura. Alcuni potremmo ci sperano, così almeno se lo fanno. In questo sono gottardiani. Un'unità di Grecia. Noi puntiamo all'unità di Grecia, siamo molto svegliati. Alla stupidità di Grecia. Voi avete già raggiunto la stupidità di Grecia, questa l'avete già raggiunta. È possibile. Però parlare di immunità di Grecia dalla Sardegna lo trovo poetico. Sì, questo pure. Ma sì, noi siamo grandi ammiratori di Briatore, cioè noi ogni estate ci troviamo sempre al billionaire sotto. Non ho altre domande. Ciao Francesco, ciao, mi rotti i coglioni. Ciao. Ragazzi, o ve la ricordate Morena Capoccia, la troia di Spoleto? Sì, no. Più volte protagonista di codesta emissione radiofonica. No. Morena Capoccia, la troia di Spoleto. Non ho idea di Capoccia, di cui parlava anche Verlaine. Sì, le tette, anche, no? Ma te la ricordi tu che sei un steta di queste cose? Certo. Morena Come Capoccia, no? quella Come che no? la scalda camionisti. Si è fatta fare una mascherina davanti. Vedo una foto sull'internet. No, una mascherina davanti con scritto la troia di Spoleto. Davanti con la mascherina, trovo straordinario. Pensa a te che roba. Giancarlo da Milano. Un dramma umano. Un Avanti dramma umano. Giancarlo. La mascherina col buco. La mascherina col buco non è idea. Dimmi. Allora, in merito alla chiamata di prima della tizia, io sto col marito perché a giudicare dalla voce, secondo me peserà 120-130 kg. Ma chi? Adesso. La tipa che voleva che a parte che ti informo che sono 97 kg io ora, per cui sono dimagrito tantissimo. Sei un figurino. Comunque, a tal proposito, ce l'ho con te. Pensi che un anno fa, su questa disgraziata trasmissione, ero intervenuto per parlare di esperienze sessuali extraconiugali di vario tipo e tu mi dissi questa cosa testualmente. Dicesti. Tu non sai cosa vuol dire tornare a casa e avere una donna che ti ama veramente. Certo. Sì. Ora, one year later, si è trasformato in un maiale. In un maiale. No. Gottardo va a spasso per l'Italia a far scureggiare le fiche. No, sì, però posso dire che la vita, però, la vita è una sintesi perfetta. Però una bella sintesi, che è Giancarlo, certo. Questo, no? Cioè, però sì. vorrei informare Giancarlo che la vita cambia delle persone. No, cioè, no, ma infatti sono perfetto. Anzi, io sono pro Gottardo di questo periodo. Però tu dici, ma io ho una sua domanda. Io tengo la tua provocazione, Giancarlo. Allora, io nel momento in cui mi sono reso conto, ti spiego. Nel momento in cui mi sono reso conto che tornavo a casa e non c'era più una donna che mi amava, ho deciso di troncare invece di andare avanti con l'ipocrisia. Oh, va bene, ma l'abbiamo deciso insieme, anche lei, e quindi io ti mando a fare lo decideremo con gli avvocati. No, la negra che c'è a casa è al corrente di quello che tu fai. Come si permette? Lei lo sa, certamente. Capitoliamo, tu anni fa sei andato in Repubblica Dominicana e hai tirato giù dalle piante questo essere vivente. Hai fatto vedere che cos'è una casa vera, no, e non una palafitta. Adesso ci parli un attimo, Giancarlo. Fino a 30 secondi fa avevi fatto un intervento, diciamo, normale, in cui avevi detto una cosa di Gottardo che lui stesso ti ha confermato con grande gentilezza. Aspetta, ci arrivo. Giancarlo, stai calmo. Allora, fino a 30 secondi fa avevi detto una cosa e gentilmente signor Gottardo ti ha rivelato certo. un aspetto della sua vita privata, come si fa non qui alla Zanzara. Fino a quel momento era tutto a posto. Dopodiché sei un imbecille, un coglione e una testa di cazzo. Hai cominciato a parlare di negre prese sugli alberi a Santo Domingo. Sei un povero coglione, lui ti salverà, però Gottardo ti salverà perché ti potrebbe togliere pure il buco del culo. Giuseppe, io allora invito Giancarlo, allora o si prende una querela oppure mi dà il suo indirizzo e ci troviamo. Mi fate risolvere la cosa a me un attimo col supporto di Gottardo, che è l'unico che c'entra qui, perché Parenza ha detto già quello che pensa di Giancarlo, razzista eccetera, tutto perfetto, però certo. Giancarlo, la questione è molto semplice. Devi chiedere scusa in questo momento per aver detto delle stronzate razziste, ridicole, razziste, per razzismo. Sottolineate le parti false, io chiedo scusa. O mi dai l'indirizzo o ti querelo, e comunque in ogni caso ti faccio un culo così. Giancarlo, no, c'è la terza, c'è la terza, c'è possibilità. La terza possibilità. No, scusami, scusa Alberto, c'è una terza possibilità. La terza perché questo non la terza gratis. Possibilità. No, ma ti la sto donna dicendo che è madre dei miei, delle mie due. Assolutamente non hai ragione. Insulta hai gratis. Ragione perfettamente. Allora, o mi dai il tuo indirizzo e devi avere le palle, perché io ho le palle. Ha ragione. Devi avere le palle di dirmelo. Ma quello si risolve in una risata. Oppure ti mando i carabinieri a casa. Oppure ti mando i carabinieri a casa. Ma non era una minaccia fisica quello che mi hai fatto. Ma non era una minaccia fisica coniglio, che mi hai fatto poc'anzi, ma non mi hai fatto coniglio. Una minaccia fisica poca. No, non è una minaccia fisica, è una sfida. Tu devi avere le palle con me, devi avere le palle di dirmelo davanti. Povero coniglio, sei un coniglio. Mi sono reso disponibile a chiedere scusa qualora evidenziassi dove sono le falsità. Dai, ma è evidente, povero coniglio. Ma non è questione di falsità, è questione di falsità, non c'è né vero né falso qui. Non è questione di vera hai falsità. Insultato, hai insultato, non è detto falsità. No, devi offensi... avere le palle. Aspetta, devi ragazzi, le palle mi fate risolvere questa situazione. Allora, mi fate risolvere con la collaborazione e col consenso di Gottardo, che è la persona interessata. Allora, Giancarlo ha utilizzato primo la parola negra, certamente non in maniera gentile, ma comunque su quello possiamo anche passarci sopra. Anche se, ripeto, non era detto in maniera normale, così scherzosa, era detto sei andato a prenderti una negra. Mai in modo scherzoso. Ma no, non è vero. L'ho imparata alla Zanzara. Dopodiché hai detto che l'ho tirata giù da una pianta che non conosceva una casa dunque normale. Una scimmia, caro dai. Mio, questa devi pagarla. Questa devi pagarla. O la paghi con me. La devi pagare, Giancarlo. La devi pagare. Aspetta, Giancarlo, evidentemente non abitava su un albero, abitavi in una casa normale. Non è una scimmia, conosceva diciamo. Attenzione, chi è che ha detto che è una scimmia? Chi ha detto che è una scimmia? Io ho visto delle ottime case. La paghi, Giancarlo? Tirami fuori il numero di telefono di imbecille. Calma, Giancarlo, vuoi chiedere scusa? Chiedi scusa, umilmente scusa. Ho detto così. Chiedi scusa o ti assumi la tua responsabilità. Chiedi scusa o no per quello che hai detto? Guarda, ho trovato quello che mi paga il divorzio. Chiedi scusa o no? Guarda, sai perché chiedo scusa? Perché lo vedo in lacrime. Giancarlo, guarda che mi hanno detto che mia madre è una puttana che peggio cose e non ho mai quello della nessuno perché non me ne può fregare di meno. Giancarlo, fuori dal boccale, e non chiedi scusa. Basta, mi sono scocciato. Basta. La Zanzara. Parenzo, stavo ascoltando il podcast. Invece di scrivere medico vaccinato, non vaccinato, potremmo mettergli una stella fuori dal dove lavora, che dici? Una stellina, 6 punte, vedi tu, fammi sapere, ciao caro. Ragazzi, devo dire una cosa, ho attaccato molte volte Parenzo, ma ultimamente ogni volta che chiama Mauro da Mantova devo dire che sta dalla parte di Parenzo. Parenzo lo sta distruggendo in tutti i modi. Ormai Mauro è da cestinare completamente. Allora ragazzi, andiamo con Armando. Ho trovato una soluzione, scusami, volevo chiudere la parentesi di prima. Ho trovato una soluzione. Io intanto querelo sto cretino, e tolgo la querela solo dopo che lui ha accettato e si è espletato questa sfida, ha accettato di venire per 9 minuti divisi in 3 round su un ring con me. Vuoi fare a botte sostanzialmente? Su un ring, con i guantoni, su una nobile arte. la nobile arte. Vabbè. Io tolgo la querela solo, che, solo dopo che questo è venuto su un ring con su ring, allora, tre riprese. Beh, c'è un signore che si chiama Manocchia, Armando Manocchia, che dice codeste cose. Sentite codeste cose. Armando, nostra vecchia conoscenza, Armando Manocchia. Ma chi è Manocchia? Manocchia, direttore di un giornale che si chiama Imola Oggi. Ah, oh, ma non è un giornale. Il virus è il cavallo di Troia che usano questi delinquenti, lo ribadisco, delinquenti che sono al governo, per sottomettere la popolazione, per aggiogarla a dei poteri sovranazionali ai quali loro si sono venduti. Questi signori non sono degli incapaci, anche perché non dicono niente di loro. È gente microchippata, è gente che parla per bocca di altri. Stanno depauperando un paese, stanno depredando un paese, stanno impoverendo una popolazione di 60 milioni di persone, perché sono morte non si sa di che cosa 60.000 persone. Vi rendete conto? Gli effetti collaterali faranno milioni di vittime. Armando Manocchia, nostra vecchia conoscenza, chiamiamo subito. Pronto? Armando? Ancora? Eccolo là, grande combattente, signor Manocchia, grande combattente, un grandissimo combattente. Come andiamo? Bene. Senti, quando tu parli di politici che sono microchippati, ecco, questo è molto interessante. Che vuol dire che sono microchippati? È un modo per parafrasare questi microchip che vogliono mettere nelle persone. Beh, secondo te vogliono mettere nelle persone? No, lo vorrebbero fare, ma non ci riusciranno perché non sono compatibili con la temperatura del corpo. Cioè, chi è che vorrebbe metterci dei microchip? No, per capire. I vostri amici. No, i vostri amici, non ho amici, vostri. Cioè, a me non me ne frega niente. Quelli che ci vogliono orizzontali che verticali. Cioè, tu dici il nuovo ordine mondiale? Ma tu credi veramente, tu sei una persona secondo me intelligente, tu credi nel nuovo ordine mondiale, che esista no, uno? No, io non ci credo nel nuovo ordine, c'è altra gente che ci crede nel nuovo ordine mondiale, io aborro, io lo schifo. Tu lo schifi, d'accordo, tu. Io gli sputo. Chi sarebbe il rappresentante? Chiamalo direttore, scusa, perché sennò non gli dai, chiamalo direttore, scusi direttore. Tu hai parlato dei... Perché non lo chiami direttore? Mi fai parlare del nuovo ordine mondiale? Ma perché non lo chiami direttore, va bene, sto mortaccione? Direttore Manocchia, chi esatto, sono, chi sono i rappresentanti del nuovo ordine mondiale? Non lo so, dimmelo, li conoscete voi. Dai. Quelli che partecipano al Bilderberg, quelli che organizzano gli incontri a Davos, tutti quelli... Cioè, questi qua hanno diffuso... Domandatelo a qualche giornalista dei vostri che partecipano a questi consessi. Loro lo sanno. Vabbè, tu stai dicendo sostanzialmente che ci sono un gruppo di persone che vogliono inocularci per forza del vaccino, e dentro questo vaccino ci sarebbe anche questo famoso microchip. Cioè, vogliono controllare... No, questo non è solo un gruppo di persone che vogliono inocularci un vaccino. Sì. Cioè, per fare un vaccino Armando bisogna che siano diversi e che siano abbastanza decisi anche. Cioè, ti devono proprio costringere con la polizia, deve venire la polizia a farti fare il vaccino. No, la polizia non mi fa neanche una sega, voglio dire, bisogna che siano diversi e che lo facciano con la forza, allora me lo faranno il vaccino. Il Covid è un virus come tanti altri, magari anche più cattivo di un altro, ma è letale soltanto per delle persone che hanno delle complicazioni serie. E dunque non è quello che ci vendono, loro lo stanno usando come il cavallo di Troia per fare tutto quello che stanno facendo. Cioè che cosa? Quello che stiamo vivendo, dai, su. Cioè ammazzarci praticamente, ammazzarci. No, ammazzarci no, perché non ci vogliono morti tutti. Tutti no, vogliono soltanto dimezzare la popolazione, non tutti. Dimezzare la popolazione. Sennò mi servivano questi stronzi. Sì, ma ci sarà quando tu parli di stronzi, caro Parenzo, ci sarà un nome e cognome? Sì, chi sono questi stronzi? È la sua, il direttore di Imola Oggi. E io ho capito questo, perché è andata via la... Però appena ha parlato di stronzi, io ho capito che stavate parlando del direttore, perché è un direttore, giusto? Sì, è un direttore. Lui, ma chi sarebbero questi stronzi? Stiamo parlando con lui, la sua biografia. Parliamo di argomenti più seri. Ma gli stronzi, chi sono gli stronzi? Ma lo sai tutto meglio di me. Quelli che vi comandano, quelli che vi pagano, quelli che vi tagliano a libro paga. Cioè la Confindustria, dici, i padroni. Bravissimi, anche loro grandi sostenitori. Grandi sostenitori? Grandi bastardi. Ma di che? Di, ma che? Di che cosa sono sostenitori? Ma di questo nuovo ordine mondiale, di questo del nuovo ordine mondiale, di questo globalismo, di questa cosa del globalismo, che ci il globalismo dei mortacci tua, ancora con ste cazzate stai, ma cambia disco, su dai, su, è finita pure sta ancora storia, ancora con sta roba, basta, noioso, sei un complottista noioso, dai, ci vuole nuovi complotti, non sempre questo, sei noioso, dai, il nuovo ordine mondiale, basta, l'abbiamo già fatto. Quello, ci vuole naturalmente un nuovo complotto. Basta, naturalmente. Questo, basta. È, un po', questo è effettivamente un po' noioso. Io non ne posso più di sentire Rockefeller. Basta, vabbè, chiudiamo loro qui, complottano. Allora, sono noioso, chiudiamo qui. Ciao. No, ma voglio, no, dire, ma voglio dire, inventatene un'altra. Sono noioso, sono 30 anni che ci sono questi qui. Basta, dai. Rockefeller. Quindi ne siete a conoscenza anche voi? Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì, sì, no, io ormai ammetto che c'è. Sì, esatto, c'è il complotto. Però inventiamo un'altra cazzata, dai. Secondo me una cazzata. Ci vuole una cosa più fresca, un po' più divertente, dai. Capito? Basta con i Rothschild, Bill Gates. Finito, dai, quello ok. Complottano, benissimo. Ci sarà qualcun altro che complotta oltre a questi qui? Oh, mi sbaglio. Dai. Non è possibile che siano sempre solo loro. Ci sarà chi, questa volta chi c'è in più? Parlate delle cose che ci colpiscono da vicino. Parlate di questo governo di merda. Di questi cialtroni che voi sostenete. No, io non li sostengo per niente. Io figuriamoci, tu sei dalla parte del direttore di Immunologi, ti rendi conto? Questi non sono incapaci, come ho già detto, no. Sono dei delinquenti. Imola oggi. Delinquenti. Delinquenti è una parola grossa, però delinquenti. Delinquenti. No, ma per cui vuol dire una parola grossa, un complimento per questi qua. Ho capito, ma uno dice delinquenti. Ma tu ti rendi conto, Giuseppe, quello che stanno facendo questi? Non ne hanno mica un'idea. Perché non hai mai scritto? Via quello stronzo di fare titoli, sennò gli diamo scapaccioni. Dimmi. Allora, imolaoggi.it non è un giornale, è un insieme di fregnacce. Di che non è un giornale, perché non è un giornale. Ma chi se ne frega? Sei direttore di sto cazzo tu. Questo è il punto. Perché la gente crede che quella roba lì sia un giornale. Ma chi se ne frega? No, ma spieghiamolo. No, non è un giornale. La gente, secondo te, la gente, quella che tu chiami la gente, perché la gente sono tutti scemi. No, tu chi legge imolaoggi, sì. Solo chi legge questa Patacaro. Scusami, Armando, io voglio capire una cosa. Patacaro. Ma dietro il grande burattinaio di tutto questo, c'è il virus, c'è chi è? Chi è il grande burattinaio? Io ancora non l'ho capito. Ma non l'ho capito io. Ancora. I burattinai sono il deep state, sono il nuovo ordine mondiale, appunto, l'abbiamo già detto. Ma non è stato di questo stronzato. Il deep state, appunto, dico il deep state. Uno dice deep state. No, non funziona il deep state. Ma non vada del debbio questo qui. Sarebbe perfetto però per del debbio questo qua. No, è perfetto. Io ti ringrazio, ma io non vado volentieri da dove vai? Chissà perché non ti invitano. Perché sei troppo anche per loro. Sei troppo trash pure per loro. Imbecile, fai schifo pure a loro, se ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto? Neanche loro ti invitano. Imbecille, scimmia, sei una scimmia, lasciami parlare. Io non ti avrei chiamato per nessuna ragione al mondo. È Cruciani che ha il gusto dell'orrido. Dell'orrido. Scusami. Vabbè, coprofago, eccetera. Comunque lui abbiamo mangia merda. È un sito di informazione. Chi se ne frega? Non è un sito di informazione. Scusami, ma no, che io voglio capire una cosa. Fondamentale. Se dovessero dirti fai il vaccino, tu che fai? Ma nessuno me lo può dire, fai il vaccino. Che ne so, quanti anni hai? Fra due mesi 65. Beh, sei un po' a rischio, dovresti partire. Comunque tu a te no. Io grazie a Dio ho una salute di ferro. A te non te ne frega un cazzo del Covid, esci tranquillamente, mascherina non la usi, non te ne può. No, io purtroppo la uso per motivi di lavoro, la devo usare. Al di fuori del lavoro gli do nel culo, a voi e a tutti quelli che lo dicono. Ciao. La Zanzara. Vi prego, tagliate il dottor Petrella che parla di pollo nei vaccini, le ossa di pollo, gli embrioni di pollo, vi prego, mandatela di nuovo perché è una perla quella lì. voglio, carissimi, chi mi ascolta, dirvi i nomi di ciò che contengono i vaccini: idrossido d'alluminio, fosfato d'alluminio, solfato d'ammonio, anfotericina B, tessuti d'origine animale, sangue di maiale, sangue di cavallo, cervello di coniglio, arginina cloridrato, rene di cane, rene di scimmia, fosfato di potassio di basico, embrione di pollo, uovo di pollo, uova d'anatra, siero fetale bovino, beta proprio lattone, formaldeide, cancerogeno, lo sanno tutti, cioè, gelatina, si è calmato Gottardo? Si è calmato? Ma sì, sono calmissimo, sono molto tranquillo, ma figurati. Gianmarco dalla Spezia, avanti tutta, dai. Io sono stufo dei moralismi di Parenzo, mi sono strarotto i coglioni perché sì. ho 22 anni, io voglio vivere la mia vita. Oggi mi sono fatto una pizza in casa con tutti i miei amici di La Spezia. Ti sei fatto, scusa? Una pizza in casa, mi sono tutti dietro mascherina, 7-8, abbiamo giocato alla play, non abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo fatto. Ma dove perché eravi? Alla Spezia. Spezia. Ah, ottima città, la Spezia. La città di Bergasso. Sì, ottimo, tanto il mare, noi vogliamo vivere, abbiamo 22 anni, esatto, abbiamo 22 anni, noi vogliamo vivere, non possiamo stare in casa per una malattia che non è la lepra. No, ma hai ragione perfettamente. 7-8 persone dentro casa. Senza mascherina è molto pericoloso. 7-8 dentro casa, comunque, se vi piace così. Tutti senza mascherina dentro casa, Gianmarco. Ma loro si infettano tra di loro. Però posso dirti una cosa. Non si capisce perché a scuola la devi portare, e dentro, essendo uno spazio chiuso. Io all'università non ci vado da mesi. Continuo a pagare una rata da mesi, o meglio, la pagano i miei genitori. Mi vergogno di fare pagare una rata. Senti la realtà. Senti la realtà che prorompe, eh? E quindi no, però, la Gianmarco, questo però scusa, che cazzo vi costa in 7-8 dentro casa mettervi una chirurgica o così a cazzo di cani? Lascia perdere i casi singoli, siete 7-8 dentro casa, non sapete che cazzo fate fuori da quella casa. No, ma secondo me è una questione proprio anche banale, se vogliamo. No, ti ricordi che fine ha fatto quello con la mascherina, quel deputato del ricoverato per Covid? Ma se adesso non gliela menare a Gianmarco, però ti sta dicendo che possono stare 7-8 dentro casa. Ai suoi genitori neanche, se ha genitori, non dico anziani. Ma perché devi proibire la socialità delle persone? Me lo spieghi perché? Devi proibire la socialità delle persone. Io non sto proibendo Gianmarco proprio niente. E i suoi amici, io dico che non è così fondamentale un po' di socialità. Essere in 10 a casa senza mascherina. Non lo è mai, se non lo è oggi, non lo può essere nemmeno domani. Ma non è vero, che vuol dire nemmeno domani? Quando si arriva a una soluzione? Quando si arriva? Ce l'hai una soluzione? Il vaccino, ma certo, va, sì. E poi per ora si può stare senza vedersi in 10 quello in una casa. Vuole vedersi con gli quanti amici, quanti amici quello vuole vedersi con gli amici, vedere a cena, ma quello tutte ha 22 anni, non io, ha una famiglia con tre io figli. Sono più vecchio di lui e quindi voglio vederli prima, no? Gianmarco, lui ha più dici? Prospettiva di vita rispetto a me. Gianmarco, che secondo dici? Secondo te perché non li vedo, secondo te? Io ho capito, ma io non ho secondo problemi, te sono più scemo di altri, cosa mi può capitare? Cosa a te magari un cazzo perché sei giovane, e i tuoi genitori, Dio non voglia, ma potrebbe capitare qualcosa. Io mio nonno non lo vedo da mesi. Ah, ma che tu a casa con i tuoi genitori poi tieni la mascherina con i tuoi genitori? Non credo, per io proteggerli. Io sarei no, scusa, mi hai raccontato? Hai raccontato che sei stato a casa con i tuoi amici a mangiare una pizza, a giocare alla play, a fare quello che cazzo vuoi, in 10 senza mascherina. E io ti dico, bravo coglione, se per caso dovessi infettare i tuoi genitori e ti chiedo, quando stai dopo aver fatto sta bravata, i tuoi genitori li proteggi o te ne fotti? Ma devo sentire un delinquente per mangiare una pizza, ma come amici, fammi capire. No, ti ho detto un'altra cosa. Hai capito che cosa ti ho detto? Fai pure l'università, quindi la logica, le parole le capisci. Non ho capito. Delinquenti, chi sarebbero i delinquenti? Scusa, non ho capito. Ah, perché ormai siamo noi delinquenti, perché siamo a vedere dove vai a casa. Ma se contagi ma scusami, mi hai raccontato tu che tu e i tuoi amici avete mangiato in casa cose senza mascherina. Io ti ho detto, evidentemente sta attento con genitori, i suoi genitori, sta attento. Ah no, io glielo ho chiesto, ma ha detto di io no. Io vivo solo con mia mamma, sto attento. Allora la tua mamma, tu rischi di contagiarla perché non penso che in casa tieni la mascherina, tutto qua. Ti auguro di no. Lo auguro a tua madre, ciao, a te Gianmarco. No, perché sei un coglione, a tua madre lo auguro. Roma, Bruno da Roma, avanti tutta, dai, dimmi. Dimmi Bruno, dimmi. Sì, no, io volevo intervenire su un'altra faccenda, però so che state parlando di sesso. Ah no, sì, è tornato Bruno, sistema, è tornato Bruno. È tornato Bruno, c'ho un sistema. È tornato Bruno che poi ogni tanto è Antonio, No, non sono, so Bruno. Bruno è un coglione totale, è un coglione assoluto. Dai. Ah, perché chiama qua? No, ti volevo dire, dimmi. C'ho un sistema per chi va stitico, non parlo di voi perché non andate stitico. No, io non sono stitico, vado accesso regolarmente, non sono come te. Vabbè. No, io vado estetico, però senti, c'era la mia giovinezza, una donna che porella, c'era estetico che per forza di sforzarsi esceva proprio, Non ho capito, scusa. È uscito un prolasso per sforzarsi per andare al bagno, tutte le mattine, ogni volta doveva andare al bagno. Ha avuto un prolasso anale, Sì, c'è. Sì. Vabbè, qual è l'interesse di questa cosa? Hai conosciuto uno che una volta ha avuto un prolasso anale? Con la mia esperienza. La tua arguzia, diciamo, chiamiamola così, con la tua arguzia. La tua nota arguzia. Sì. Allora, un giorno tutto quanto ci siamo appartati, tutto quanto, c'era un po' di cocaina, pure la cocaina, io l'ho messa intorno all'ano, sì. Giusto? Ma che hai messo intorno all'ano? Ma cosa hai messo intorno all'ano? Chi è che parla sopra? Scusa, Parenzo, parlando. Le supposte di glicerina, no? Un racconto tra i più idioti mai sentiti. Te le spalmi sulle mani, sulle mani. Vabbè, allora ma qual è il punto? Qual è il punto? Te le metti sul cazzo, ma sì. Ti sto spiegando. Ma non me ne frega niente a me, non me ne frega niente. Parlare di sesso non te frega niente. No, non me ne frega niente. Bellissima. Ma non me ne frega nulla, Bruno, delle tue esperienze di 40 anni fa quando ti tirava il pisello, che adesso il pisello non ti tira più. Il pisello non ti tira più adesso. Non ti tira più. Io devo dare un'esperienza. No, non me ne frega nulla della tua esperienza. Se vede che non ti interessa. Ma no, perché sei un poveraccio. Sessualmente non io sono un poveraccio, che ne sai che sono? Sì, poveraccio. Sei un poveraccio. C'ho l'esperienza io che tu nemmeno ti immagini. Ma quale esperienza? Allora, dato che questa non ti interessa, volevo parlare della malinformazione che finalmente c'è stato un pubblico ministero. Chi è? Che ha denunciato quei due porcellini lì. Di chi? Uno quello li conosci, chi so? Feltri. Ha denunciato per che cosa? Cretino, perché cosa? Perché ha fatto delle dichiarazioni sulla Raggi che sono mendaci. Sì, ma non me ne frega, ma non me ne frega niente a me. Il tuo amico Feltri, l'imbriacone, molto amico, è quello che ha fatto tirare le monetine a Craxi. Ma adesso si sta pendendo perché sta dicendo che Craxi si sta pendendo. Perché ha detto che Craxi è stato uno dei più grandi presidenti del Consiglio. Vabbè, allora? E lui, volevo dare questa notizia, dato che Ma non dai notizie, sei un delitto. Sei un pazzo. Sì, non sono pazzo, so di la verità. Difatti, dato che non vuoi sapere si inculata con una estetica che poi dopo ti trova più piacere a cagarti sul petto. Ma cosa dice questo? Bruno da Roma. Che vuol dire Bruno da Roma? Ma chi è? È Bruno da Roma. Ma è Morello, ma chi è? È un cretino. Ma è quello che era rimasto, che era stato in carcere per un periodo. Senti. Ben trovato, amico mio. Contardo, ti interessa se non dice del culo? Sì. No, sei tu che fai il collegamento. Sei tu che fai il collegamento subito. Vabbè, con il fatto mi dici, di essere stato in carcere. Mi hai detto del carcere. Sì. Che cazzo ne sai? Sì. Scusa da questo. Ma sei un mezzo delinquente. No, ciao Bruno. Ciao. Willy da Bari, avanti tutta. Willy da Bari. Che bella l'immagine del presidente americano che si vaccina assieme al dottor Willy Fauci. Da Bari, dicendo che è merito di Trump, peraltro. Willy da Bari, dimmi. Esatto. Bellissima quell'immagine. Sì, ti sarai segato. Sì, molto bella. Bella l'immagine del presidente Willy americano. Da Bari mi dice qualcosa. No, dico, quante volte è venuto Parenzo su quella immagine? Bellissima, non vengo per quello, ma mi è piaciuto moltissimo. Capitan Vaccino che si vaccinano, molto bello. Vabbè, allora? Sì, quelli fanno parte. Vabbè, vaccinatevi. Sì, ok. Beh, tu sei stato vaccinato. Fermo là, Willy, mi devo fermare. La Zanzara. A Parenzo Bacca è un medico serio, a differenza di te che sei un pseudo giornalista del sistema. Sei un complice del sistema. Un giorno ti vergognerai di quello che dici. Ti vergognerai. Dite a Parenzo che se un medico, secondo lui, non si può rifiutare di non vaccinarsi, perché può rifiutare di non praticare l'aborto? Ciao Davide, mia moglie mi ha beccato che ascoltavo la Zanzara e mi ha detto che non mi fa né bene né onore. Parenzo, tutto aperto un cazzo li mortacci tua. Io ho una pizzeria e faccio solo asporto e lavoro al 20%. Li mortacci tua, capito? Li mortacci tua. Ma devi far finita di difendere sti pezzi di merda, prezzolato del cazzo. Cos'è che ha detto? Non ho capito. Prezzolato, potrebbe scattare una querela. Adesso non esageriamo, ci sono tutti, come se fosse già oggi è scattata una querelina. Beh, più che legittima, ma no, ma la querela in assenza di incontro, però, perché tre ripresine io me le farei molto volentieri con uno che dice tre riprese cose sul ring, sul sulla ring. Madre delle mie figlie. Sì, pensa te quanti cazzotti tirerei a questo su un ring, in alternativa al fatto che Willy gli tolgo la pelle. Istintivamente lo capisco proprio, sì, una reazione Willy, più vai, legittima. Allora dai. Ah, ok, bro, senti, allora innanzitutto bro, la testa ma di Willy, cazzo... tu hai già chiamato, no, una volta, Willy, no? Il famoso Willy figa, da... Ma figa, un bel po' di volte. Willy sì, da sì. Bari, Willy da Bari. Che dice figa. Ovvio che chiama. Willy vai. Da Bari, sì, figa, sì, quella che c'è, diciamo, adesso come chiodo fisso una testa di gottardo, però tanto rispetto, ci sta che ci stai rinata. L'hai avuta, ma diciamo che ti sei un attimo, come dire... stato in un come posso dire non sai come dire, vabbè, vai, andiamo no, avanti. No, in tu una, fumi in una marijuana, amico nostro, che sei così ricoglionito, no, ma ti volevo cercare una bella frase, cioè che sì, stavi, ma comunque tu eri fumi marijuana, stavi cercando tua moglie, però eri diciamo in questa zona crepuscolare, diciamo così, che ti sapevi che esisteva la fica, però diciamo che sì. Una volta che hai riassaporato, diciamo, quello che voleva ho dire, ti sei risvegliato da questo tuo stato di da questo tuo stato quasi zombie, ok? Perché ovviamente sempre sì, a scopare la stessa donna, ma non è mica che ti sto facendo la no, ma manco quello. Beh, quindi cosa vuoi? Non ho capito. Quando ho iniziato dopo 10-15 anni, però sì, però vabbè, ho perso 17 non volevo parlare, sì, volevo parlare con la testa di cazzo scappellata ebrea. Non c'entra niente qui dalla regione, questo, amico mio. Questo si sta mettendo male, pure questo, ma secondo me. Ma per scherzare, guarda, io non ce l'ho, era solo per dire che Capitan Vaccino, no, che vorrebbe imporre, cioè lui lo sa quali sono le percentuali, per esempio, no, della Spagna. Lei si è vaccinato da ragazzino? Fatto, purtroppo i suoi genitori hanno eseguito l'obbligo vaccinale, sì, l'hanno vaccinata e poi ha iniziato a fumare marijuana. Purtroppo lei è stato vaccinato. Diciamo che ho cominciato ad ascoltare la Zanzara. Che lei è stato vaccinato da ragazzino, più, per sua fortuna, quindi diciamo non ha preso delle malattie terribili. Delle malattie terribili, no, che invece se avesse preso le avrebbero fatto capito, cambiare opinione. No, mi dici un attimo, appunto, mi dici un attimo, la che battuta, ma mi dici battuta, cosa vuoi un attimo, Willy, cosa vuoi? Sì, non sono mica arrivo, riuscito a capirlo, punto, cosa vuoi? Arrivo... E ho capito, è 5 minuti che siamo qua, ma cosa vuoi? Ho capito, bro, lasciami dire una cosa. Dico Parenzo che tanto così cioè, deve andare anche un attimo a vedere ciò che sta succedendo anche negli altri paesi. Lui vabbè, sa, ciao amico mio, mi hai rotto il cazzo, ciao. Una roba incredibile, guarda, la gente chiama tre ore prima di andare appunto, sì, questa è la strafatta totale. Quanta ne fuma quello, dai. Ma abbiamo con noi, ragazzi, una persona un che medico, ha un sogno finalmente, nel cuore, no, no, un sogno non nel è cuore, un medico. Il suo sogno nel cuore è... fare un lavoretto al signor Parenzo. Ma fare un lavoretto al signor Parenzo. Beh, abbiamo una trans mistress, una oh, trans mistress, beh, allora super Sonia dotata, super dotata. Non è nel cuore il sogno. No, però ha un sogno da un po' di tempo. Si chiama Daila Ferrante. Mi dispiace dover deludere Daila Ferrante, la signora. Che ringrazio e saluto. Buonasera, signora Ferrante. Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Scusi, signora, signora, quanti anni ha lei, innanzitutto, signora Trans? Io ho 26 anni. 26, sono, benissimo. Sei... Come mi ha correttamente introdotto, una mistress trans super dotata. Daila Ferrante, Daila con la Y. No, non c'è dai nulla in quello che ha detto che mi interessa. Mi scusi, ma chiedo scusa senza volerla offendere. Nulla di questo menù, Ferrante, nulla di questo menù è degustazione. Sì, qual è il sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è sissificare Parenzo. Sissificare, molto interessante. Che cosa vuol dire sissificare? La principessa Sissi, forse dei grandi. Allora, sissificare, io essendo italoamericana, diciamo, la sissification è una pratica molto diffusa nella comunità transessuale angloamericana. Vabbè, un problema vostro, però. Sì, allora che consiste, cioè? Nel obbligare lo slave diventare una vera e propria sissi, quindi una puttanella. Sì, slave Parenzo slave Parenzo diventerebbe sostanzialmente una puttanella. Togliere entusiasmo a questa conversazione. Sedare i vostri bollori, entusiasmi. I vostri bollori. No, mi spiace, esatto. Sedare i vostri entusiasmi. Credo che la proposta sia totalmente irricevibile. Aspetta, da 10 anni. Da 10 anni che lo sei. Deve una sei la puttanella di Cruciani, scusami. Dai, prosegui. Allora prosegui. Entro nel concreto, le dico in cosa concreto. Non penso una che volta mi convincerà. Che ha trasformato lo slave appunto in un assist, quindi in una puttanella, lo porta con sé in giro per parchi, parcheggi, quindi luoghi di car sex, di incontri ormai diffusi e conosciuti in tutta Italia e anche all'interno di autogrill, dove può usare lo slave per diciamo per il piacere dei maschi che passano nei paraggi, nei dintorni. Molto bene questa quindi cosa. Non riesco a capire. Non riesco a capire chi potrebbe accettare. Io ovviamente no, ma non riesco neanche a capire chi potrebbe accettare. In questo momento il sogno, il sogno della signora Daila Ferrante, trans mistress super dotata, che ci può, apro una parentesi, dare più o meno un'indicazione sui centimetri del suo cazzo, signora Daila Ferrante. Ma non cambia la sostanza, anzi aggrava. Vado molto fiera dei miei 22 centimetri circoncisi. Ah, 5 C, pure questa. No, io non dico beh, che è la voce registrata. Scusa, quando ti sei circoncisa, cara Daila Ferrante? Magari sei anche di religione però ebraica. Non cambia, ma figuriamoci. Dunque, all'età di 16 anni mi sono circoncisa. Quindi, diciamo. Ma come mai? Per quali motivi? Motivi estetici, così? Motivi di salute? Diciamo che non si staccava quel filetto. Come si chiama? Non mi viene in mente. Filetto, sì, vabbè. Prepuzio, sì. Io al mito, anzi, frenulo. Frenulo, bravo. Ero piccola, ero un ragazzino, diciamo, quando mi però ci interessa francamente molto poco questa storia. No, a me interessa meno di zero, se posso essere anche molto sincero con lei. Senza offenderla, signora cara. Quante persone fai fare lo schiavo? Diciamo, quante persone fanno quella cosa che tu vorresti fare a Parenzo, cioè utilizzare, sissificare, diciamo, Parenzo? Quanti diventano? Diciamo, è una pratica di nicchia, diciamo, sostanzialmente, ma molto diffusa. Io attualmente ho quattro sissi fedeli. Hai quattro sissi fedeli? Ramona, Claudia e Veronica. Diciamo anche i cognomi, che saranno felici. No, e così sono siamo tutti a posto. Maschi, naturalmente, che tu praticamente fai fai scopare o fai comunque usare da altre persone, giusto? Esattamente. Ovviamente i nomi li scelgo io per le mie scritte, sono nomi di fantasia scelti da me. Ecco, ma le cose sono casuali, diciamo, oppure sono preparate? Cioè, le persone che in questi schiavi incontrano in giro, che ne so, appunto negli autogrill? No, assolutamente casuali. Assolutamente casuali. E come fai a incontrare le persone? Che casualmente poi si inchiappettano i tuoi slave. Come l'ho detto, ci sono dei posti, no? Ad hoc, di vita questo. Ah, certo, dei parcheggi fatti apposta. Tutti sì, noi certo, ci siamo certo andati almeno una volta nella vita. Ecco, il massimo questo slave, un Parenzo qualsiasi, diciamo, che si sissifica. Non usare il mio nome, quante, se ti posso. Quante persone hanno quanti piselli hanno preso nella stessa sera, diciamo, al massimo? Dunque, diciamo, l'assisti più brava che ho avuto è stata Veronica, che è riuscita a prenderne 20 in un parco, una buonasera. 20 vabbè, non parlo, la sono ragazzi, scientifico. Guardate che è vero, perché come c'è Slave Leia l'altro giorno che ci ha raccontato le sue esperienze, qui c'è una mistress che ci racconta le esperienze di alcuni slave che lei porta al guinzaglio in alcuni posti poi nel paese. Ma crescono i novax, scusami, facciamo una stima dei tempi, no? 20 a un quarto d'ora a uccello sono 4 ore 5 ore, non è credibile questa cosa, no, qui, no, neanche, no, da un, no, punto, no, di vista fisico, dal punto di vista temporale. Alcuni sono molto rapidi, no, immagino, giusto? Esattamente. Poi ci sono anche gangbang o comunque situazioni di gruppo. Pure. Dove bell'ambiente, esatto, bell'ambientino, certo, assolutamente. L'assisti in ginocchio, intorno ci sono tanti uomini che abusano di lei. Ovviamente all'assisti non piacciono gli uomini, l'assisti lo perché è sottomessa al volere della sua mistress, quindi la sua eccitazione che sarebbe lei, che sarebbe pensa, lei, esatto. Scusi, lei anche fa anche pratiche di inculamariti, tanto per capire, insomma. Sì, anche quella è una pratica che mi diverte, pensate, molto. Ma c'è un albo? C'è, sì, un albo per fare questo? L'albo degli inculamariti. Chiede per un amico. Chiede per un amico. C'è un ordine professionale? Cioè, cosa c'è? Diciamo che ho una, c'è un esame di Stato perversa che si deve fare? Ha una mente molto perversa la signora. Sì, questo si era capito. Questo si era capito. Non amo gli incontri banali, ecco. Ecco, ma scusi, questo signora Tranzi, lei mi pare che sia attiva, molto attiva. Mi pare, sì, che... sì, assolutamente, attivissima. Cioè gli ormoni non hanno influito sulla sua, sulla durezza del suo pisello? Assolutamente, ho già fatto tutto a tempo debito, adesso non prendo ormoni, niente di niente, funziona tutto, proprio Funtese. Come il tuo. Ma mio, adesso io adesso non so se funziona come il mio, questo non lo so, non ne sono a conoscenza. Come fa a sapere come funziona quello di Cruciani? Questo diventa interessante la conversazione. Invece Cruciani è un uomo eterosessuale che non fa terapie ormonali, pertanto presumo che abbia una funzionalità corretta. Presumo, qua la conversazione si fa interessante qua. Senta signora trans italo-americana, ma nell'ambiente trans si parla di Cruciani e di come funziona l'uccello? Qui la conversazione si fa interessante. Ma perché si dovrebbe parlare di Cruciani? No, diciamo che Cruciani è molto temuto nell'ambiente trans perché, perché non paga, è stato... perché non paga, è chiaro. No. No, però sa, lui con la sua trasmissione mette molto in luce la nostra comunità e quindi fa anche, come dire, un servizio assolutamente. Ci sono anche delle mogli, ci sono anche delle mogli che portano i loro mariti a farsi inculare, come ormai abbiamo appreso da diverso tempo. Sì, anche questa, come le dicevo, è una pratica che a me diverte molto, ad esempio scopare il marito mentre la moglie guarda e si tocca e io inculo il marito. Una pratica molto interessante. Lì nel quartiere Prati, dico in generale, qualcuno potrebbe anche pensarci nel quartiere nel quartiere Prati, quartiere. No. Posso escludere che in quel quartiere qualcuno possa minimamente avvalersi di questo tipo di pratica? Ma perché? Ma guarda che è una pratica normale. Non puoi far passare per normale che ma la moglie porta il marito come pratica. Nelle ma figuriamoci. Ma assolutamente, ma siete un branco di pervertiti. Io ve lo voglio dire. Dimmi qualcosa di più. Sono coppie che vengono e pretendono che io magari stoppi la moglie. In questi casi, ecco, è già un po' più difficile perché a me ovviamente piacciono gli uomini, quindi non riesco sempre a scopare la donna. È una cosa diventa complicata. Però diciamo dei rinforzi magari dei miei amici, certo. E subentrano al mio posto, quindi in questo caso Parenzo magari questo potrebbe piacerle. No signora, grazie. Grazie del pensiero. È richiesto il fisting? Sempre di più ce lo pratichi tu il fisting? Tu non sai cos'è il fisting? No, per fortuna, ma non lo voglio neanche sapere. Tira il fisting? Pratico anche il fisting va molto, però è ancora più una pratica molto ancora più di nicchia perché sì, è veramente certo. molto estrema per non parlare del pissing, ma qui andremo su altri piani. Va bene, diciamo comunque Parenzo ormai è sdoganato è di moda, è normale fare pissing, insomma. Però posso dire una cosa, David, guarda che ci sono tanti servizi che la signora Daila Ferrante trans mistress super dotata può fornirti. Da quello però, che ho sentito sinora non ce n'è uno. Lei dove risiede, signora Ferrante? Dove risiede lei? Io risiedo a Roma. Molto bene. Beh, molto però, bene. Se mai dovrà venire in tour a Milano, no, ma lui a Roma, quartiere Prati, Prati. Io mi sto trasferendo a Milano. Ciao, Daila, ti abbraccio. Ciao. La Zanzara. Che cazzo dice le quattro rette non prova dolore? è mai stato operato di emorroidi sto stronzo? Io sì, ho patito le pene dell'inferno e ho pianto come un bambino. Altro che dolore, non lo auguro nemmeno a un cane il dolore che ho provato io. Siamo davvero non solo in goi, ma fai anche i carterismi. Ancora una volta, col supporto di Gottardo, voglio smentire questa teoria di Paolo Saulino che si ingoia solamente se si ama. Cazzata spaventosa, è una cosa che non ha nessun senso. Comunque, se uno è appassionato di un uomo, non ingoieranno mai. Esatto. Allora cosa vuol dire? E ci sono delle vacche totali che invece ingoiano qualsiasi cosa. Delle vacche totali, come siamo finiti su questa? Con rispetto per le vacche, va. No, però posso dirti una cosa: che la definizione di Gottardo, che ogni tanto sembra sessista, maschilista, eccetera, di vacca, no, non è così, perché in realtà lui lo dice con. Lo dice quasi con rispetto, diciamo, con rispetto di una caratteristica particolare di alcune donne che possono essere tranquillamente definite vacche. Io non vi condivido, ma non come in senso sapete, negativo, ma non in senso negativo. Il linguaggio, l'argomento. Scusami, ci sono le maiale, ci sono le vacche, ci sono le cagne. Cioè, sono tre categorie dello non spirito. Non condivido questo tipo di linguaggio, ma. E non penso che sia così apprezzato. E guarda, che dire cagna. No, qui ti sbagli. Dire cagna a una cagna è il più grande complimento che puoi fare a questa donna, che lo sa di esserlo, e tu in quel momento la riconosci. Non entrerei è così. Questa sono augusta io conversazione. Sono molto gottardiano in questo. Alcuni termini che possono sembrare offensivi dalla cultura alla cultura neofemminista, neosessista di puttanate. Se a letto sono un complimento. Esatto, dai. A letto sono un complimento assoluto. Logico che non te lo dico in coda all'Ikea. Non ti dico, ehi cagna, vieni qui. Chiaro, a letto, quando siamo io e te sì. In privato la parola cagna, troia, puttana, vacca, eccetera, sono parole altamente apprezzate. Sul cuore. Molto semplice, ragazzi. Se tu non hai incontrato una donna così, cazzi tuoi, Parenzo. No, ma io dico questo linguaggio che voi utilizzate, secondo me, è un linguaggio lontano. Potrò fare quel cazzo che voglio? Posso fare quel cazzo che voglio a letto con una donna? Aspetta, devo domandare a te. Il mitologico Tommy Canaglia, che è un porno attore, manda un messaggio molto, molto forte nei confronti di Gottardo. Senti. Ditegli a Gottardo che può salire sul ring con me come e quando vuole, per quello che lui ha detto su mia moglie e su mio figlio su una diretta Instagram. Tommy a Canaglia. Potrebbe diventare un quando format. Vuole lui. Grande format. Però guarda che non te lo consiglio. Hai detto delle cose terribili tu, terribili. Scusami. Allora, io ho detto che dovrebbero, secondo me, accertare la sanità salubrità della famiglia, in cui Tommy a Canaglia scopa pubblicamente, nel senso multimediale del termine, la moglie e lui raccontava di come scopa a volte anche in maniera molto molto aggressiva la moglie a favore di telecamera con il figlio in regia che sentiva tutto che quanto quello era qui, ecco, che ascoltava io quella l'ho trovata una scena aberrante. Ma tu hai parlato di non so cosa hai detto in questa diretta Instagram. Sono cazzi vostri. Ma abbiamo ancora. Era una diretta della Zanzara. Instagram lui dice chissà dove ti ha pizzicato a parlare della moglie. Sarà, dai. Sarà rincoglionito e non si ricorda. L'ho detto in quello che pensavo. Però su Tommy. Mi sono Canaglia. Dimenticato. Dopodiché, sullo sfidarmi sul ring, io ci starei un po' cauto. Tutto lì. Ma guarda che Tommy a Canaglia ti fa un bucio di culo così sul ring. Quando tu vai sul ring, c'hai due sacchi, uno per darli e uno per prenderli. Se volete vi sfidate qua dentro, potrebbe essere un'idea. Vi sfidate qua dentro a pugni. Quando si potrà. Allora, è ancora collegata. Facciamo un ring qua dentro. Qua dentro dove cazzo sarà, dove mai andremo? Bellissimo. Allora, Daila Ferrante è ancora collegata con noi, perché mi sono dimenticato, ripeto, transessuale, mistresso, perché mi sembra che Parenzo abbia cambiato opinione. Sì. Lo senti? Parenzo. senso? Ha, che ha cambiato opinione. Essendo tu a Roma, sì. Essendo tu a Roma, vedi che hai cambiato opinione. Dimmi la verità: hai cambiato opinione? Sì, sì. Meno male, ma meno male. Ha cambiato. L'idea ci può venire da me. Nel caso, rimani a dormire qua. Questo mi pare ottimo. Sì, quella, assolutamente. Ma non ci pensi in alcun ma modo. Ma come? Oh. Sì. Benissimo. Allora, ha talmente cambiato opinione. È ancora un po' combattuto, però di fondo ha cambiato opinione e vuole usufruire dei tuoi servizi. Perché tu devi spiegare una cosa, Daila. Beh, lo senti. Beh, i servizi tuoi di una da 22 centimetri non sono servizi da poco, diciamo la verità. Sono servizi di un certo spessore. Allora, come no? Assolutamente. Allora, sì. Daila, puoi dirmi una cosa? Puoi rassicurarlo da questo punto di vista? Se lui dovesse diventare uno slave, dovesse sissificarsi, diciamo, per un periodo anche breve, eccetera, sotto gli occhi vigili della sua compagna, non sarebbe, diciamo, una trasformazione? Cioè, non è che vengono da te gli omosessuali gay, non devi avere paura, Parenzo, di diventare omosessuale. Esatto, non mi interessa. Capito? Cioè, questi qua sono maschi, quelli che vengono da te, poi diventano slave. Cioè non, a queste persone qua non piace posso l'uomo. Posso dire che non giusto? Mi interessa. Cosa... Esatto. Piace la donna col cazzo, non l'uomo. Beh, lo vedi? Questo è non fondamentale. Vedo niente, non me ne frega niente. Piace a voi, a me non piace. Ma cosa vi devo dire? Molti uomini hanno paura che andare a trans voglia dire essere ma io gay. Non è che ho paura, non mi va. Diglielo, non avere paura. Non avere paura. Ti porta in giro. Non avere paura, non c'è problema. Non ti piacciono gli uomini all'improvviso. All'improvviso non ti piaceranno gli uomini. È una nuova esperienza. Esatto. Parenzo, facciamo una prova. Tanto cosa le costa? Non costa nulla, sì, un regalino. Senta, diciamo, i soliti regalini. Facciamo così. Facciamo così. Chiudiamola qui, cari signori, chiudiamola perché? Qui. Perché non mi potete convincere, non mi interessa. No, appunto, come diceva Riso. Però scusami un attimo, io insisto ancora su questa roba qua. Insisto ancora. Una esperienza di questo tipo. Ce la dobbiamo fare. Sì, dai, ce la farò prima o poi. Un'esperienza di sissificazione, un'esperienza con te di slave Parenzo. Suona anche bene, vero Gottardo? Slave Parenzo, slave no, David. È fantastico. Intanto, Fanta, io Parenzo, voglio sapere un nome d'arte. Metterò anche un col suo nome. Sì. Ma okay. Mica trans, Parenzo, in che parco di Roma lo porterebbe una volta che viene sissificato? Per carità. Dove? Al Pincio? Quali sono i posti da car sex, per esempio, a Roma, dove vai tu di solito? Quali sono? Identifichiamoli. Ovviamente non li nomino, altrimenti no, nominane uno. Una piccola guida, una piccola tutti lì. Vabbè, tanto si sa, però... basta andare su internet, basta dimmene uno dove che tu frequenti spesso con questi slay. Parenzo, essendo una persona comunque di un certo livello, lo porterei anche a in un posto chic, ad esempio di notte a Villa Borghese. Beh, di notte a Villa Borghese sul Pincio, sì. Mi dispiace toglierle, come dire, una soddisfazione, ma questo non avverrà. Ma perché mi dispiace Parenzo sissificato sulla terrazza del Pincio? Mi dispiace sulla terrazza del Pincio, che in Veneto vuol dire una cosa precisa. Poi puoi dire a Parenzo che hai anche una fetish mask, così non lo riconosco. Ma la cosa non è che cambi. Volevo proprio dire questo: se la sua paura è quello di essere riconosciuto come immagino, capisco benissimo. Io la trasformo in un modo, in una, davvero in una fetish che nessuno la riconosce. Le metto una parrucca bionda, degli stivali. Ma io non, però signora, non so come dirglielo. Una fetish mask con un buco davanti. Io non voglio nulla da lei. Davanti. Non voglio niente da lei, grazie, ma no, grazie. Vabbè. Cruzani, ce la faremo. Ce la faremo. Poi. Ciao, amica mia, ciao. Attenzione, Tommy Aganaglia. Io non capisco perché Tommy tu proietti Aganaglia. Sugli altri, Tommy, quello spero, che vorresti fare tu. Spero che tu non abbia messo qualcosa di sconcio in questa cosa, comunque, perché lo sto ascoltando così per la prima volta. Ah, senza filtri. L'amico Gottardo non si ricorda che tempo fa lui era in diretta Instagram con la fanpage della Zanzara. Io seguendo la Zanzara, ovviamente, ho visto la diretta e sono entrato. Quando questo ragazzo ha visto che è entrato Tommy Aganaglia, lui ha cominciato a dire cose, a sparlare, okay, si è a lasciato sparlare. Andare sì. Ti scopi la moglie davanti alla telecamera. Per quanto riguarda l'incontro, caro Gottardo, non dovresti aver paura. Tu sei più alto di me, pesi più di me e hai un braccio più lungo del mio. Io ti lascio quindi scegliere te ne prendi se vuoi guanti aperti o chiusi, se vuoi mettere il caschetto o se vogliamo fare come professionisti senza caschetto. No, se vuoi usare caschetto. Gomiti, ginocchiate, lotta a terra. No, ginocchiate solo box, solo kick. Quello che vuoi sono tu. Boss. Scegli sono boss. Quello che vuoi tu, pure il posto, però sopra il ring, non per strada. Sì, certo. No, chiaro. Lì a Radio 24. Sul ring, figurati. Sceglielo tu. Mi sembra una buona aspetto, idea. Mi sembra una buona idea questa qua. È solo che, siccome questo non mi ha offeso la moglie, io provo solo che pietà nei confronti di questo che è ridotto a dover mettere Giovanni da Messina in internet i propri rapporti sessuali. Ma che c'è? Tutto lui lo fa il porno attore, che vuol dire? Sì, Giovanni ma poi da Messina, parla davanti dai al figlio. Vabbè, ma sono quelli sono cazzi figlio, suoi, capisci? Abbiamo già parlato di questo, dai, Giovanni da Messina. Ma certo non tuoi, Giovanni da Messina, dai. No, certo, è un po' buonasera strano, si può dire che è un po' strano solo. Ma l'abbiamo già strano detto, abbiamo già affrontato questo. È orgoglioso strano questo qua di fare sta roba, dai. Giovanni da Messina, avanti tutto. Buonasera, saluto tutti, mi chiamo Giovanni Vinci e telefono da Bordonaro, un villaggio alla periferia di Messina. E noi che cazzo ci grazie per aver chiamato, grazie, molto gentile. Ma che cazzo ce ne frega di sapere che questo si chiama da Bordonaro? Cioè, comunque, vabbè. No, è una precisazione, ho detto pure il mio cognome. Ma perché? Perché ho il coraggio delle mete e dettagli. Comunque, il coraggio, mi dispiace che siamo in zona Cesarini, volevo affrontare tre punti. Il signor Parenzo fa disinformazione. Primo, quando dice che è un virus naturale, perché mette in dubbio un'inchiesta giornalistica fatta da TG3 Leonardo nel 2015 che prende spunto dalla rivista Nature. Vabbè, come così non è così? La rivista quel Nature video l'abbiamo dove visto pubblicano tutti. Non è così. Vabbè, avanti tutta. Se passiamo al numero due, passiamo al numero due. Poi? Numero due. Ci sono stati casi, sempre fonti delle giornali RAI, di persone che hanno contratto il virus, sono guarite e l'hanno ricontratto. E questo siamo se non sono sufficienti gli anticorpi che il nostro corpo naturalmente produce, che garanzie può dare un vaccino? Poi il punto 3, punto 3, avanti. Punto 3, il signor Parenzo la deve smettere perché ha complessi di inferiorità in quanto non è laureato. Si spara quei latinismi un po' alla Don Abbondio e alla spesso nel 90% dei casi farebbe bene a stare zitto. Allora e facciamo così, dire, visto che lei il latino volta, non lo capisce, glielo dico in italiano, vada a fare in culo, così è più ho dritto. Capito, io gliel'avrei voluto dire in latino, dire ma no. In continuazione, questa trasmissione va chiusa perché nessuno le punta la pistola alla dentia. Si dimette e fa felici tanti radioascoltatori. Mi per dimetto, primo lei dice. Ciao, ciao Giovanni. Mi dimetto, ciao, lei dice. Ezio dalla provincia di Bologna, dai ragazzi, dai, Ezio provincia di Bologna, vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Allora, volevo dire a Parenzo, un altro disturbo. Io ho 72 anni, non ho mai fatto un vaccino in vita mia e non ho mai preso un'influenza. Ha preso la meningite però. Ha preso la meningite. Da come parla ha preso la meningite, sa quella là che dopo o muori o rimani stupido. E lei dico, ha preso la meningite. Glielo dico in latino. S stercus. S stercus. Calma, calma, l'avete subito in aggredito. Latino, lo avete subito aggredito, Ezio. Io voglio capire una cosa, Ezio. In latino, tu in hai latino 70 e rotti anni, non hai mai fatto un vaccino e dunque dunque chiedo per quale motivo immagino che da piccolo dovrebbe essere obbligato a fare questo e infatti non sei obbligato solo che qualcuno vuole rompere i coglioni e vuole dire se non sei vaccinato almeno non puoi fare uno o due lavora tre nel pubblico, almeno per i medici certo, ma almeno i medici almeno possono scegliere, alla fine lo faranno, ma chi non lo vuole fare, anche il medico può anche non voglio farlo saperlo. Io voglio saperlo, veramente i dati che dicono i giornali dicono che il 53% dei medici non ne vogliono sapere di vaccinarsi. Tra l'altro. Non lo dico io, bravo, lo dico io. Ciao amico mio, ciao. Enrico da Agrigento. Girgenti, altrimenti detto. Girgenti. Dimmi Enrico. La patria ciao, di Pirandello. Parenzo, ciao, la patria di Pirandello. Vai, dimmi, viva. Dimmi, avanti tutto. Ciao, sono un amico di Nicola Franzoni, ve lo ricordate? A giugno, a maggio, Nicola Franzoni, le manifestazioni. Cioè, sei praticamente un collega, diciamo, praticamente un commilitone, come si dice, di chi Franzoni. Franzoni? Ma Franzoni no, è quello, militone, è quello un super fascista amico, che pisciò sulla, no, sulla targa di Conte a Palazzo Chigi. Parenzo, dai, almeno facciamo due minuti di telefonata, così almeno eviti di sentire i trans che ti vogliono inculare, vogliono convincere. Vabbè, Enrico, che vuoi? Non ho capito. Niente, volevo dirti soltanto una cosa. Parenzo, sei contento di questa politica attuale? Ma che domanda è? Dai, su, è non funziona, su, dai, è una domanda importante. Dai, che non funziona, no. Ma su, come è, cosa dovrebbe non funzionare? Funziona, Marco da, Marco da Firenze, non funziona, dai che no. Sei contento di questa politica attuale? Dimmi. Volevo chiedere a Parenzo, che cosa pensa del lavoro delle prostitute? Ma lo abbiamo detto. Guardi, sono aspetta, rispondo Luciani, così, aspetta. Sono le 20 e 40, le 20 e 50. Io sono pagato per rispondere fino alle 20 e 49. No, infatti vado. Sono le 20 e 49. No, no, il mio orologio fa 20 e 50, vabbè, non posso, Marco, più rispondere. No, non lo considero, rispondo io per lui. Lo considera un lavoro da cui bisogna scappare il più presto possibile. Non lo ritiene un lavoro degno. Ecco, diciamo così. Marco, allora? Come considera il lavoro di colui che si fa offendere 3 ore al giorno da tutta Italia? Lui è pagato anche per questo, è pagato anche per questo. Ma sì, infatti, per me ogni lavoro è uguale. Dunque, la prostituta fa lo stesso lavoro che faccio io. Chi si può offendere? Assolutamente. Francesco dalla provincia di Monza, vai, Francesco, dimmi. Beh, io intanto volevo dire questo: che il virus è stato creato per fare il vaccino. Il virus, e quindi, aspetta. Virus il è creato virus... apposta per fare il vaccino. Ah, se d'accordo, poi... sì. Questo è l'unanimità, almeno la maggior parte dei biologi italiani, a parte voi che siete dei grandi illuminari, sicuramente ne sapete di più. Poi... però fatto sta che comunque è un vaccino forte, proprio perché non lo sappiamo, comunque poi allora? No, non lo sappiamo, proprio perché il Covid è stato creato per creare un vaccino che riuscisse a contrastare gli altri virus, le altre influenze, quindi allora, è un vaccino forte. E dunque, forte. Conclusione? Che è un vaccino molto forte. Conclusione? E allora, dunque alle 20.50? Alle 20.50? Vaccino forte, guarda, dunque? Testina, dunque? Già basta, quello che dunque? Ho detto basta e avanza. Basta che hai le pigne in testa, c'hai le pigne in testa, c'hai. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.